Una conversione per posta elettronica. 1. Vuoi conoscere una corrispondenza per posta elettronica con una ragazza che in seguito ha posto fede in Cristo? Molto semplice. Ascoltami su CRC FM e lo saprai. Un momento. Avverti anche i tuoi amici e conoscenti. Ti saranno grati. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, l'opera che compie il Dio Trino per condurre un'anima ad arrendersi a Lui è sempre qualcosa che meraviglia. Basti pensare alla conversione di Paolo lungo alla via di Damasco, avvenuta in seguito alla visione di una luce sfolgorante in cielo, o a quella di Agostino, verificatasi al sentire la voce di un bambino che diceva «Apprendi e leggi». Se poi osservo ciò che Dio ha compiuto nella vita di tante persone che conosco, ma soprattutto se rifletto su ciò che Dio ha compiuto nella mia esistenza, allora ogni parola muore sul nascere. Non mi rimane che avere uno spirito di adorazione e di lode. Il Dio che ha creato i cieli e la terra non è legato a nessun metodo in particolare nel condurre le anime a sé. Te, anche nel tempo della tecnologia, è in grado di usare per il suo scopo qualsiasi strumento moderno, uno dei quali è la posta elettronica. Proprio per glorificare Dio, ho pensato di testimoniare come un'anima sia venuta alla conoscenza di Cristo tramite la posta elettronica, perché questo sia di incoraggiamento a chi cerca Dio con tutto il cuore. All'inizio del mese di marzo del 2002 ricevo una email dal fratello corrispondente della comunità alla quale appartengo. Il tenore della missiva era il seguente. Ellero, ho ricevuto questa email all'indirizzo della Chiesa. Te la inoltro per la risposta. A Monica ho già comunicato che presto qualcuno le avrebbe scritto. Ciao Mario. Ecco l'email. Salve, sono Monica, ho 20 anni. Ho letto alcuni opuscoli da voi stampati e mi hanno dato molta speranza. Io infatti mi sento cristiana fino in fondo, ma non sono mai andata d'accordo con il cattolicesimo che mi è stato proposto come unica visione del cristianesimo fino ad ora. Se non disturba, vorrei che fare alcune domande e soprattutto voglio che sappiate che mi avete restituito una speranza che non avevo da troppo tempo, quella di poter vivere appieno la mia fede senza ipocrisie o compromessi, condividendola con qualcuno. Potete rispondermi all'indirizzo seguente. Vi ringrazio. Tra i tanti messaggi che si ricevono per posta, questi sono i più belli perché rappresentano un'occasione per testimoniare di Gesù, cosa che chi ha realizzato la salvezza per grazia mediante la sola fede in Cristo non vede l'ora di poter dire agli altri. Questa occasione non era da perdere e così, il giorno stesso, tutto felice, ho risposto a Monica. Cid 1. Cara Monica, ci ha fatto un immenso piacere la tua email. Siamo molto felici e consolati, constatando che vi siano, ancora, dei giovani alla ricerca delle cose che hanno un vero valore, cioè quelle che appartengono a Dio. Siamo ben disposti, entro i limiti delle nostre capacità, a rispondere con sincerità e schiettezza ai tuoi eventuali interrogativi. Sappi che, se hai recuperato una certa speranza, non è merito nostro, ma evidentemente è perché lo Spirito di Dio ha letto il tuo bisogno e ha operato nel tuo cuore. Fai tesoro di questa chiamata. Coltivala. La tua vita sarà, così, rischiarata dalla luce di Gesù Cristo. Avrai notato dai nostri scritti che noi non siamo cattolici ma neanche anticattolici, così come non apparteniamo ad una religione, per quanto siamo di fatto un'assemblea di persone che risponde alla denominazione evangelici, cioè aventi come unico riferimento la verità rivelata del Vangelo. Noi crediamo infatti che nessuna religione possa salvare. Il nostro messaggio consiste nel presentare la persona di Gesù Cristo, quale Salvatore e Signore. Gesù è morto in croce per ognuno di noi, perché, secondo il giudizio espresso chiaramente da Dio, nelle Sacre Scritture tutti noi meritiamo la condanna eterna. La parola di Dio afferma che non c'è è nessun giusto al mondo, neppure uno. Contrariamente a quello che insegna il cattolicesimo, per natura noi tutti siamo figli del diavolo. In quanto tali, di conseguenza, sul nostro capo pende il giudizio di Dio. Solo un atto di fede può renderci figli di Dio e giustificarci da tutti i nostri peccati. Questo è in sintesi il nostro messaggio, il messaggio dell'Evangelo, appunto. Aspettiamo una tua risposta, incoraggiandoti a leggere la Bibbia, quale parola di Dio, perché essa può renderti saggia, per comprendere la volontà che Dio ha per la tua vita. Inoltre, perché tramite essa tu possa entrare nella famiglia di Dio, trovando, così, quella compagnia che la tua anima brama. Infatti sta scritto, a quelli che sono soli, Dio dà una famiglia. Salmo 68, 6. Ti saluto con affetto. Per la Chiesa. Ellero. Quante volte si è scritto a delle persone le quali non hanno più risposto? Avrebbe Monica risposto a questa lettera, contenente un messaggio già di per sé molto chiaro ed esclusivo? Una certa trepidazione c'era, trepidazione che fu subito calmata il giorno dopo. La risposta di Monica era inaspettata. Cominciamo dall'inizio, che per quanto banale spesso è la risoluzione migliore. Io sono stata profondamente cattolica fino ai 14 anni circa. Ho insegnato catechismo, ho collaborato alla fondazione di un ritrovo giovanile parrocchiale. Punto, insomma, le solite cose, utili e belle, che si accompagnano ad una fede sincera. Il mio problema è sorto, per alcuni motivi che poi spiegherò, se sarà necessario, quando ho cominciato a non dare per scontata la mia fede e a cercare Dio. Mi sono accorta che c'erano cose, nella mia fede di allora, che la deviavano, se posso usare questo termine, ma specificando che è riferito a me sola, da quella che nel mio cuore sentivo che doveva essere. Mi sono posto domande che hanno trovato una risposta diversa da quella che mi era stata insegnata, ad esempio, e soprattutto almeno all'inizio, nell'ambito del culto dei santi, dell'organizzazione ecclesiastica, della versione giusta delle scritture, dei dogmi di fede. Ne ho parlato con il mio sacerdote che non ha reagito molto bene, diciamola così. Il conforto più grande che ho trovato in tutto questo tempo è stato quello dei Vangeli. Lo confesso, non mi sono ancora addentrata a fondo nell'Antico Testamento. Ho trovato lì una promessa di pace, ma non solo. L'offerta di una possibilità per riscattare tutto ciò che ho fatto di brutto, come ogni persona. Suppongo. La prima delle mie domande, e parlerò in modo molto schietto, è: come vivete il concetto di pentimento ed espiazione? Questa è stata una delle cause del mio allontanamento dal cattolicesimo. L'espiazione intesa come penitenza di mortificazione non mi pare avere molto senso, in quanto credo che sia giusto pentirsi di aver deviato dalla giusta via, ma non credo sia giusto punire il proprio corpo per una mancanza dello spirito. Dunque, Monica si era aperta, aveva esposto il suo problema causato dalle incoerenze da lei trovate nella religione cattolica romana. Senza comprenderlo appieno, Monica aveva intuito, grazie al semplice ausilio della ragione e della coscienza, che la vita è un dono da godere e non una condanna da espiare. Come lei, ci sono milioni di persone che desiderano liberarsi dalla schiavitù della religione, e questo motiva il desiderio di predicare l'Evangelo. Come ho letto la posta di Monica, ho subito risposto con le seguenti parole. Cid 1. Stupendo! Cara Monica, sei stata toccata da Dio. Tutto è iniziato quando hai cominciato a non dare per scontata la tua fede e a cercare Dio. E così che si fa. Se uno nasce buddista, musulmano o cattolico, è ovvio che creda giusta la propria fede soltanto. E, quando si mette in discussione ciò che ci hanno trasmesso, che si acquisisce una fede reale, perché essa non è una fede tramandata, ma una fede costruita. È vero che il cattolicesimo afferma di credere in Cristo quale Dio e Signore, ma di fatto, come tu stessa hai verificato, lo nega. Tu hai messo il dito nella piaga. Gesù ha sempre parlato di peccato, di inferno e di paradiso, ma non ha mai insegnato, e sottolineo mai, che l'uomo debba espiare i peccati per meritare il paradiso. Come tu sai, Gesù è morto in croce proprio perché chi pone fede in Lui abbia il pieno perdono di tutti i peccati, passati, presenti e futuri. Puoi leggere questo nel discorso di Pietro, nel libro degli Atti, al capitolo 10, dai versetti 34 a 43. Il discorso termina con le parole: ora egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti. A lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Da notare, Monica, che il pubblico al quale l'apostolo si rivolgeva era composto unicamente da religiosi. Gesù Cristo risponde proprio alle tue esigenze personali. Egli ti offre una vita sgravata dai peccati commessi, ti offre il perdono totale di qualsiasi peccato, ti offre una vita vissuta nella gioia del perdono. Insomma, Gesù il Salvatore ti offre una vita che non è una condanna da espiare, ma da godere, e da godere dal lato spirituale, morale e fisico. Gesù Cristo, salvandoti, non ti salva solo in parte, ma tutto il tuo essere, corpo, anima, spirito. Con ciò, non voglio essere frainteso, non significa che una volta diventata figlia di Dio tu viva in un continuo paradiso terrestre, perché la tua esistenza potrà subire inevitabilmente le conseguenze dei tuoi errori. Se un drogato sieropositivo diventa figlio di Dio, rimane tale. Se un omicida pone fede in Cristo, il suo errore e le conseguenze di questo non verranno eliminati. Ciò che Gesù Cristo è in grado di offrirti è un nuovo atteggiamento nei confronti della vita, in merito al bene e al male. Con un appagamento divino affronterai il futuro in modo nuovo. Avrai obiettivi nuovi, amicizie nuove, in definitiva vita nuova. Proprio per questo, quello che hai fatto di brutto, come tu dici, non può essere riscattato, ma solo posto ai piedi della croce di Cristo. Come ogni persona non adeguatamente istruita, sei caduta nella forma religiosa. La religione insegna che noi dobbiamo fare qualcosa per ottenere il perdono. L'Evangelo invece insegna che tutto è stato compiuto, che basta solo un atto di confessione di peccato, di indegnità, per accettare il perdono di Dio, che è basato solo sulla grazia e non sulle opere. Che il nostro Signore Gesù Cristo ti riveli, mediante il suo Spirito, la bellezza di essere perdonati, proprio perché non possiamo senza di Lui essere degni di essere perdonati. Gesù ci può perdonare qualsiasi peccato, come per esempio la maldicenza, la bestemmia, l'omosessualità, il furto, l'omicidio e la fornicazione, a condizione però che ammettiamo di non essere degni di essere perdonati e che, con tale sentimento, accettiamo il perdono immeritato di Dio. Questo è il Vangelo. Ti invito a leggere l'Evangelo di Giovanni, al capitolo 1 e versetti da 11 a 13, come pure il capitolo 5 dello stesso Evangelo. Puni fede. In ciò che leggi, chiedi a Dio di poter comprendere e la luce di Cristo entrerà nella tua vita. Ellero. La lettera era stata spedita, ma come avrebbe reagito Monica alle mie parole? Lo impareremo nella prossima trasmissione. 2. Vuoi conoscere una corrispondenza per posta elettronica che ho avuto con una ragazza di nome Monica e che in seguito ha posto fede in Cristo? Non hai che da ascoltarmi su CRCFM. E lo saprai. Un momento. Avverti anche i tuoi amici e conoscenti. Ti saranno grati. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ho la gioia di farvi partecipi di una corrispondenza in merito alla fede cristiana avvenuta tramite posta elettronica con una ragazza di nome Monica. Nella prima trasmissione abbiamo letto le sue due prime lettere nelle quali dichiarava di non accettare la religione cattolica romana a causa del dogma concernente il pentimento e l'espiazione. Prima di tutto ho dichiarato a Monica che stava corrispondendo con una persona di una certa età e che era già nonno per 3 volte. Poi ho continuato facendole presente che era stata toccata da Dio perché non tutti sono disposti a mettere in discussione la propria fede. Inoltre ho ricordato a Monica che nel messaggio evangelico la vita viene considerata come un dono e non come una condanna da espiare. Questa è stata la sua risposta. Ho pensato a molti modi per scrivere questa lettera, a moltissimi modi per dire ciò che sto per dire. In realtà ci sto pensando anche ora. Ma ho deciso di farlo nel modo più semplice e sincero possibile. Perché tu non meriti di essere trattato a giri di parole. sono stata infinitamente felice della tua risposta e della tua fiducia di nonno. Temo però di stare per deluderti e, ancora di più, temo che la speranza e la gioia che è cresciuta in me fino ad oggi trovino qui la loro fine. Ma credo che, quando si imbocca una strada, la si debba percorrere fino in fondo, dando tutto di sé. Ancora un'unica premessa: non è facile per me parlarti di questo, perciò ti prego, credimi. Non pensare che per un qualche oscuro motivo io ti stia mentendo, va bene? Per me sarebbe tutto molto più facile. Da sempre, attenzione, da quando mi ricordo di essere viva, io ho una particolarità, si potrebbe definire un talento molto particolare. Innanzitutto a volte, non sempre, solo alcune volte, io so cosa avverrà in futuro. Ti ripeto che non è uno scherzo. A volte mi succede senza che io lo voglia, non in sogno o in visione, ma con una consapevolezza piuttosto particolareggiata, come un ricordo di qualcosa che deve ancora succedere. Altre volte ho bisogno di una rivelazione del genere per dare una mano a qualche amico. E in quel caso, con gli anni, ho imparato ad interpretare tanti piccoli segnali intorno a me per sapere quale avvenimento è più probabile. Ma non è la stessa cosa, né altrettanto preciso di quando viene da solo. Le cose non stessero così, intera vita sarebbe più facile se la mia. È evidente che ero di fronte ad una ragazza un poco particolare, un aspetto che si noterà ancora di più nel seguito della risposta. Poi Cish è la mia seconda particolarità. Ci sono momenti in cui posso togliere il dolore alle persone. Questo però lo faccio sempre apposta. Cioè decido di farlo, mi concentro e, quando è possibile, riesce. Ammetto che nel momento in cui decido di tentare, prego Dio di far smettere di soffrire quella persona. A volte accade, a volte quando il dolore è necessario a quella persona, resta. Ho detto questo anche al mio parroco tanti anni fa e lui ha detto che sono stirpe del diavolo, che è un peccato gravissimo ed imperdonabile, in particolar modo perché prego Dio commettendolo, perché così facendo compio un sacrilegio. Io ho provato a non farlo, ma per le rivelazioni, perdonami se uso questo termine biblico ma non so quale altro usare, non ci posso fare nulla, arrivano anche se io non le voglio. Quanto alla seconda cosa, soffro nel non poterlo fare e trovo ingiusto che non mi sia permesso di provare ad aiutare un mio fratello. Mi dispiace da morire se ti ho deluso. So che tu forse lo troverai atroce, ma io non reputo giusto seppellire due dei miei talenti, quando possono essere così utili. Sto studiando medicina per poterli usare al meglio per il bene, in modo che, se davvero sono così orribili, se davvero mi condannano alla dannazione, almeno mentre sono in vita, possano essere utili ai figli di Dio. Mi dispiace tanto, Ellero, tu sei stato tanto buono con me. Ti chiedo ancora un piacere, quello di rispondermi, sia pure per esprimere il tuo disgusto. Devo ammettere che dopo aver letto una simile lettera ero abbastanza perplesso, ma subito mi sono ripreso, perché quando ero nell'adolescenza anch'io avevo molti interrogativi e mi sembrava di avere delle caratteristiche che non rientravano nella norma. Insomma, come tutti i giovani, anch'io, come Monica, non avevo sempre un equilibrio razionale ed emotivo, e se avessi scritto una lettera in merito alla mia personalità, forse avrei scritto cose ancora peggiori. Così, dopo aver riflettuto e pregato, ho risposto con la massima sincerità e con tutto l'amore che abita nel mio cuore per mezzo dello Spirito Santo. Lettera che leggerò tra un breve stacco. Cid 1. Carissima Monica, già leggendo le prime righe, i miei occhi erano lucidi. Non sapevo che cosa avrei letto, ma ero cosciente di entrare in un angolo della tua vita che avevi riservato solo ad alcuni. Io ero uno di quei favoriti. Grazie. Sono emozionato, commosso, per la fiducia accordatami e perché, come tu dici, non mi hai trattato a giri di parole. Ti dico subito che nella mia vita niente, e poi NIE, Nuovo Testamento e nessuno, mi ha mai deluso. Sai perché? Perché prima di essere delusi bisogna essersi illusi, ed io non mi sono ancora illuso. Sai perché? Perché anch'io ho una caratteristica molto rara. Le mie percezioni, qui assomiglio a te, le valuto sempre con la disarmante realtà e con un cuore sgombro da preconcetti e malizia. Ciò mi ha impedito di formulare giudizi avventati e dannosi, e dandomi di arrivare là dove pochi arrivano, dopo averti letto, non ho cambiato parere. Tu sei una donna preziosa. Bisogna solo mettere ogni cosa al suo posto. Se tu fossi anche indemoniata, io so che Gesù non ha mai avuto paura dei demoni, per cui, avendo lo Spirito Santo dentro di me, non ho paura. E ti accoglierei così come sei. Se tu fossi indemoniata, so una cosa. Tu hai bisogno di tanto amore, come ognuno di noi. Hai bisogno di essere compresa, di essere il Nuovo Testamento IRTI amata. Beh, ti è andata male, perché io non sono il miglior uomo su questa terra. Ti è andata bene, perché sono un pochino atipico, strano, quindi ti ho accolta. E ti accolgo così come sei. Mi piacciono il tuo coraggio e la tua determinazione, il tuo desiderio di voler far del bene al prossimo. Il fatto poi che studi medicina è un dato a tuo favore che ti porta nella realtà della vita. Io non conosco il percorso della tua esistenza. Non sono a conoscenza delle ragioni della realtà che tu stai vivendo. Ma, da una prima impressione, sì, è un misto di tante idee. Credo che tutto possa essere messo a posto. Sono sicuro che, se avrai un reale incontro con Gesù Cristo, egli possa migliorare ogni tua capacità. È evidente che ciò che è sbagliato, ma prima di dire che è sbagliato, dobbiamo guardarci bene dentro. Confessione per confessione, Monica. Prima di conoscere Gesù Cristo, in parte, in piccolissima parte, c'erano in me le tue caratteristiche, ecco perché. Non mi hai delusa, ma io credo che queste caratteristiche abitino in tanta gente, gente che non osa parlare, ma tutto dipende dalla quantità e qualità. Per quanto mi riguarda, una volta conosciuto Gesù Cristo, tutto è andato a posto. Siamo tutti particolari, Monica, solo che, se questa particolarità è meno conosciuta, fa effetto. Un mancino al particolare, ma dato che di mancini ce ne sono tanti, non fa effetto. Io ho sollevato, per esempio, 100 kg con un dito. E questa particolarità fa più effetto. Mi stavo aprendo, come trovo giusto fare, con chi ha il coraggio di esprimere sentimenti molto personali. E così ho continuato nella mia lettera. Cid 1. Metto solo in enfasi una cosa, Monica. Tu sostieni che preghi Dio, ma non ti sei mai chiesta che Dio ti rivolgi. Scusa la mia presunzione, ma secondo me tu non conosci. Ci è Dio. Questo lo dico perché, per conoscerlo, bisogna conoscere ciò che Lui ha rivelato di se stesso. E, dato che Lui si è rivelato nella parola di Dio, cioè la Bibbia, se tu non conosci l'Antico Testamento e pochissimo il Nuovo, ti è impossibile conoscere il carattere e la personalità di Dio. Pensaci, a questo punto, Monica, penso che non ci resti altro che conoscerci, avere un incontro. Non so dove abiti. Quindi, se ti fa piacere, aspetto, nella prossima email, alcune tue direttive. Se ti fa piacere, e se hai tempo, se vuoi, potremo anche incontrarci sabato 22 febbraio, nella sala di Modena dalle 18 alle 22. Ho un incontro con dei giovani, anch'io, come te. Svolgo un servizio tra i giovani. A presto, Ellero. Avevo gettato l'amo. Monica aveva avuto il coraggio di parlare di sé con uno sconosciuto come me. Ma ora io ero insoddisfatto perché avevo bisogno di conoscerla di persona. E così gli ho chiesto di incontrarci. Avevo fatto presente che ero una persona sulla sessantina, che mi prendevo cura di un gruppo di giovani, in modo che lei potesse essere serena per quanto riguardava l'incontro. Inoltre, le offrivo l'opportunità di conoscere altri ragazzi della sua età. Come avrebbe reagito Monica a questo mio invito? Chiedere un appuntamento può essere un motivo per intrappolare qualcuno. Può essere motivato dal fatto di voler fare del proselitismo. Queste probabilità erano più che mai possibili, visto che molte persone sono state sedotte cadendo in una setta. Si sa che molti giovani sono pieni di ideali e idealismi, ma mancano d'esperienza, la quale aiuta più di tanta conoscenza. Come avrebbe reagito Monica al mio invito? Lo impareremo nella prossima trasmissione. E intanto Vi saluto ricordandovi che lo scopo delle nostre trasmissioni non è fare dei proseliti al protestantesimo, ma di condurre le anime a Gesù Cristo perché trovino pace, gioia e perdono dei loro peccati. Non vi è un'esperienza più bella di questa. A risentirci alla prossima su CRCFM. 3. Spot. Vuoi conoscere come una ragazza di nome Monica ha posto fede in Cristo tramite una corrispondenza per posta elettronica? Non hai che ad ascoltarmi su CRCFM, ma non fare l'errore di essere solo. Ascolta con i tuoi amici, soprattutto se sono increduli. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, inizio la mia trasmissione con il leggervi la corrispondenza che ho avuto per posta elettronica con una ragazza di nome Monica. Ecco una sua risposta. Dire in questo momento che sono felice non corrisponderebbe esattamente alla verità. Ho l'impressione che la pelle riesca a contenermi solo per amore della decenza. Non ti dico che non sai cosa significhi per me la risposta che mi hai dato, perché dal modo in cui l'hai scritta ho capito che lo sai benissimo. Perciò sono ancora più felice. Finalmente, dopo tanto tempo passato a chiedermi se, come e quando questo sarebbe accaduto, so di avere realmente la possibilità di vivere. Con tutto il mio impegno un percorso di fede, non ho più il dubbio di essere sbagliata fin dentro e di poter danneggiare gli altri tipo me la marcia. Finalmente mi sento libera dalla paura che mi ha sempre frenata. E sento di avere la possibilità di seguire la strada giusta, di faticare per rendermi migliore, di impegnarmi per avvicinarmi a Gesù come tutti gli altri. Quanto lavoro ho da fare e come è bello saperlo. Sono certa che raramente nella mia vita mi sono sentita così carica. Certamente voglio incontrarti, anche se non credo che ce la farò a venire a quell'incontro perché i miei orari da pendolare non me lo permettono. Ma sono a Modena tutta la settimana dalle 7.40 alle 16.10, in un modo o nell'altro si farà, a costo di dover inventare il teletrasporto all'uopo. Suppongo tu abbia già capito di esserti guadagnato il mio rispetto, eppure una buona dose di affetto. Adesso che mi sento molto ma molto meglio, mi sono venute in mente un sacco di cose, fra cui il fatto che tu mi hai sempre sentita molto seria, per lo più sono un esserino molto gioioso, è davvero difficile vedermi seriamente giù. E il fatto che non sappiamo nulla ognuno dell'altra, non lo so. Ti sembra maleducato da parte mia se sono un po' curiosa verso di te? Spero di no, perché lo sono. Molto. Sono curiosità sciocche. Per la serie, ti piace leggere? E il gelato ti piace? Ma ci sono. Anche perché ti ho aperto parti del mio animo che da molto tempo non si aprivano più. E ho quindi l'impressione di conoscerti da molto più tempo. Ma sicuramente mi sto comportando da sciocca. Un'ultima cosa, questa molto seria, sono tanto felice di somigliare per certi versi a quello che tu eri, perché tu assomigli per molti versi a quello che io vorrei essere. Spero solo di avere almeno la metà del tuo coraggio. Dato che io non possiedo un computer a casa, per scriverti uso quelli dell'università. Ieri mi son fatta leggere la tua mail per telefono da un amico, spero non ti dia fastidio. E lui è rimasto piuttosto affascinato dalla tua risposta. Mi conosce da molto tempo e sa quello che significa per me. Ti dispiacerebbe se gli lasciassi leggere il nostro scambio epistolare? A lui piacerebbe molto, ma prima di dirgli, dissi, volevo conoscere anche il tuo parere. Per chi segue regolarmente le nostre trasmissioni, sa che la lettera appena letta è una delle tante con le quali ho corrisposto con Monica. Monica è una ragazza che, alla ricerca di Dio, è rimasta come tante persone, delusa della religione, e precisamente della religione cattolica. Mi ha contattato e si è aperta dicendomi di essere un poco particolare, tanto che il sacerdote l'aveva dichiarata impossessata di Satana. Le ho risposto che era imbattuta male avere un contatto epistolare con me, perché io non sono il miglior uomo su questa terra, ma lei era comunque andata bene, perché sono un pochino atipico e strano. Quindi, se l'avevo accolta, era perché assomigliavo un po' a lei. Questo spiega la sua gioia nel rispondermi, la sua disponibilità di incontrarmi, e anche la libertà di far conoscere la nostra corrispondenza ad un suo caro amico. Così, dopo una simile lettera esplosiva, ho risposto con le seguenti parole. CID 1. Cara Monica, le tue parole hanno profondamente consolato il mio cuore di nonno. Ero un poco in pensiero. Avevo lieve dubbio che tu non potessi rispondermi. Tu sarai contenta. Ma, nel leggere che non hai più paura, che senti la possibilità di seguire la strada giusta, che ti impegni per avvicinarti a Gesù, sappi che io ho provato una gioia senza pari. E l'opera di Dio, Monica. Non mi sono sbagliato. Quando una persona desidera avvicinarsi al nostro Dio, Gesù Cristo, significa che esse è in battuta nella strada giusta. Non ho segreti. Per cui puoi far leggere il nostro scambio epistolare. Secondo me faresti bene a fare il percorso da sola. Ma se veramente lui ti è di appoggio, di aiuto, fai pure. In merito al nostro incontro, credo che non sia un problema. Tu puoi fissare un appuntamento a Modena ed io mi adeguo. A me piacerebbe tanto trovarci in una pizzeria e mangiare una pizza assieme, mentre chiacchieriamo. Se tu avessi un giorno dove puoi essere libera verso anche l'una, scegli tu la pizzeria, l'orario, il giorno. Io vedrò. Ad una condizione, la pizza la pago io. Se no, che cavaliere sarei? A presto. Per quanto mi riguarda, a me non basta solo una corrispondenza epistolare per conoscere una persona. E così ora avevo proposto di conoscerci meglio di fronte ad una pizza. Come avrebbe risposto Monica? Sarebbe stata ancora entusiasta di incontrarmi? La risposta di Monica in merito alla pizza fu più che positiva. Ah, dunque, sei anche tu un pizzomane. Bene, la cosa mi fa piacere. È uno dei miei piatti preferiti. Appena ho finito i prossimi due esami, ne ho avuto uno anche oggi, ma prima ti ho risposto. Ci possiamo mettere d'accordo per il giorno. Quanto all'orario, direi che per pranzo è perfetto. Certamente ti do ragione quando dici che il mio percorso è uno di quelli che vanno affrontati singolarmente. Il motivo per cui mi sarebbe piaciuto che il mio amico leggesse le nostre lettere è che tu ci creda o no, è cristianofobo. Va d'accordo con me su quasi tutto, purché non si parli di religione, e comunque non mi ha mai considerata una vera cristiana, che per lui sono quelle persone con la croce nella sinistra e il lanciafiamme nella destra, per capirci. Vabbè, ognuno di noi è unico e irripetibile, e ognuno ha le sue fobie. Volevo solo che capisse che esistono anche cristiani veri, con una grande fede, ma anche gentili e comprensivi. Secondo me tu sei uno splendido esempio in proposito. Bene bene, ora un'ultima cosa, la mia solita ultima cosa da mail. È una richiestina. Dato che sto per riprendere in mano il Nuovo Testamento, non rimandare a domani. Qualche consiglio per iniziare? Saluto affettuoso. A questo punto erano usciti altri elementi. Monica e suo amico erano allergici ai formalisti. Religiosi come tante tante persone, e stavano cercando dei veri cristiani. Questo aspetto, anziché inorgoglirmi, mi dà sempre più un senso di responsabilità, perché o un cristiano vive in modo da onorare Dio, oppure grazie al suo comportamento vera espressione della realtà o meno della fede che egli dice di professare, il nome di Dio è bestemmiato. Ma in questa risposta è uscito un particolare che mi ha fatto molto piacere, il desiderio di leggere la parola di Dio. Conoscere delle persone che leggono la parola di Dio è un vero miracolo, ma conoscerne che desiderano leggerla è ancora più difficile. E ora, dopo la nostra corrispondenza, Monica desidera riprendere in mano il Nuovo Testamento con tanta serietà da chiedermi un parere sul punto di partenza della sua lettura. La domanda è molto importante e molto seria, infatti tante persone hanno iniziato a leggere la parola di Dio e poi si sono stancati perché si erano imbattuti in discorsi lontanissimi dalla loro cultura. Così una lettura che inizi dal Nuovo Testamento è molto saggia. Ecco dunque la mia risposta, che vi leggerò dopo un breve stacco. Cid 1. Grazie per aver accettato la pizza. Non sono proprio un pizzomane, ma la trovo molto buona quando si è in compagnia, specialmente con chi ti propone argomentazioni interessanti. Non esageriamo, non sono un esempio di virtù, ma mi ha toccato la preghiera di quel bambino. Quando chiese: «Padre, ti chiedo che gli uomini cattivi diventino buoni e che i buoni diventino simpatici». Da allora ci provo. Per la lettura del Nuovo Testamento non credo che vi siano delle grosse precedenze. Ehi, tutta parola di Dio, io consiglio di iniziare con la lettura dal Vangelo di Luca, per poi passare al Vangelo di Giovanni. Vedi tu, qualsiasi cosa tu legga. Va bene, l'importante è leggere con il desiderio di comprendere quale sia per te la volontà di Dio. Riguardo al ragazzo, sarei poi interessato a conoscerlo. Ti devo confessare che brucio dalla voglia di parlare con dei ragazzi. È evidente che prima vorrei conoscerti di persona. E da sola. Troppa carne al fuoco non va bene. E poi ho una debolezza. Ai. A me piace l'effetto sorpresa. Se non legge le mie lettere, non si forma nessun'idea su di me. E così, non si difende e non si apre troppo. A me piacciono le persone nella loro genuinità. Oh, se vuoi, umanità. Forse è per questo che mi sei piaciuta fin dalle prime righe. Continua ad essere quello che sei. Che Dio ti apra la strada per dei buoni esami. Contraccambio il saluto affettuoso e com, è mia caratteristica, anche caloroso. La risposta di Monica non si fece attendere. Giusto su due cose. La prima è che sono ipersensibile alle delusioni, soprattutto alle autodelusioni, quando non riesco in qualcosa che voglio. La seconda è che non per questo bisogna mollare. A parte che leggo la tua mai proprio dopo l'ennesima delusione scolastica, questa talmente grande, che avevo pensato di lasciare medicina. Ma tu ci lavori davvero per Dio, però. Perché altrimenti è inspiegabile come tu possa dire sempre la cosa giusta al momento giusto e se sbagli il momento l'ascolto io al momento giusto, e che ti ringrazio delle tue parole perché mi hanno dato una bella scrollata quando ne avevo bisogno. Voglio dirti che il mio più grande desiderio è quello di perseverare sulla strada che comincio già a sentire mia e di arrivarci fino in fondo nel modo migliore possibile. Non so se ci vorranno anni o decenni, ma so che voglio continuare finché o riuscirò o avrò vita. Dipende solo dal Signore. Detto questo, io non mi reputo certo talmente costante da poter dire non avrò mai un attimo di sbandamento, ma mi reputo abbastanza fortunata da avere sempre chi mi dà un consiglio al momento giusto, quindi con un po' di aiuto, e sappiamo entrambi da parte di chi. Credo che ce la potrei fare. Ciò che per ora non capisco, voglio che un giorno risplenda da dentro di me come una fiamma, come succede a te. Non conosco il tuo aspetto, ma so che, qualunque sia, sarà quello giusto. Grazie ancora, Monica. Dopo una simile lettera, come sarebbero andate le cose? Lo saprai se mi ascolti ancora su CRCFM. 4. Spot, vuoi sapere come una ragazza di nome Monica ha conosciuto Cristo? Non è stato un colpo di fulmine, ma ha fatto un percorso che può essere di aiuto a chiunque desidera conoscere la verità. Su CRCFM prenderò in esame la corrispondenza che ho avuto con questa ragazza per posta elettronica, perché mi ha fatto del bene e fa del bene a chiunque ascolta. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per riflettere sulla corrispondenza con Monica, una ragazza contattata tramite la posta elettronica. Chi ci ha seguiti fin qui sa che Monica mi ha contattato perché aveva un problema in merito alla fede cristiana e durante gli scambi di opinione si è aperta. Ha rivelato parte del suo carattere, ma quello che più importa è il fatto che ha avuto il desiderio di leggere la parola di Dio e si è proposta di arrivare a possedere ciò che offre Dio in Cristo Gesù. Queste infatti sono state le sue ultime parole. Abbi ringrazio delle tue parole perché mi hanno dato una bella scrollata quando ne avevo bisogno. Voglio dirti che il mio più grande desiderio è quello di perseverare sulla strada che comincio già a sentire mia e di arrivarci fino in fondo nel modo migliore possibile. Non so se ci vorranno anni o decenni, ma so che voglio continuare finché o riuscirò o avrò vita. Dipende solo dal Signore. Detto questo, io non mi reputo certo talmente costante da poter dire non avrò mai un attimo di sbandamento, ma mi reputo abbastanza fortunata da avere sempre chi mi dà un consiglio al momento giusto, quindi con un po' di aiuto. e sappiamo entrambi da parte di chi credo che ce la potrei fare. Ciò che per ora non capisco, voglio che un giorno risplenda da dentro di me come una fiamma. Come succede a te? Nel leggere queste parole, il mio cuore ha fatto un sobbalzo di gioia e ho scritto una email dal seguente tenore. Cid 1. Il tuo carattere mi piace. Sei sincera nel modo in cui affronti la vita. Sei sincera nell'esaminarti. Sei sincera nei tuoi sentimenti. Ciò ti rende onore. Ciò mi disarma. Nella vita l'importante non è stare sempre in piedi. Nessun uomo di Dio lo ha fatto. L'importante è essere se stessi, in ogni circostanza. Nella vita, l'importante non è essere perfetti. Come tutti, hai le tue debolezze, i tuoi punti deboli, ma questo Dio lo ha fatto apposta, perché, quando amiamo una persona, dobbiamo amare anche ciò che non ci piace. Non sei fortunata perché hai il consiglio nel momento giusto. Sei fortunata meno, se così si può dire meno, perché sai ascoltare e ricevere ciò di cui hai bisogno. E questo, bisogna riconoscerlo, è da pochi. Se hai fatto un esame, se ho ben capito, te ne aspetta solo un altro. Fai presto, ho una fame di pizza. A proposito, per l'aspetto bisogna sempre sapersi accontentare. Non sono il tipo facile ai complimenti, ma quando dico una parola buona e incoraggiante è perché le ritengo tali. In effetti Monica è una ragazza normale con tutti i suoi problemi giovanili, ma esprimere le proprie delusioni come ha fatto e desiderare ardentemente di arrivare a concludere la sua ricerca di Dio non è da tutti. Fino a questo momento era rimasto in sospeso il nostro incontro. Per mangiare una pizza con lo scopo di conoscerci meglio, anche se avevo già scritto che ero sposato, che avevo 3 nipoti e che mi ero presentato come un operatore ecologico spirituale. Con questa ultima frase ho voluto dire che il mio obiettivo è quello di raccogliere nel pattume della società quelle persone che hanno veramente un valore, e per me Monica ne rappresentava una. Così, Monica risponde alla mia ultima lettera. Allora, io ho come giorno libero il giovedì, anche questo giovedì se vuoi. Sono sempre più felice della nostra amicizia. Grazie di avermi detto qualcosa di te e ora direi che ricambio. Ovviamente vivo con mamma e papà, che sono 2 persone veramente splendide, difficoltà di convivenza a parte. Il mio papi fa il pittore ed è molto simile a me come aspetto e carattere. Mamma invece fa l'amministratrice ed è una donna molto dinamica. Non sta mai ferma. Ho una sorellona di 29 anni, sposata, che fa l'avvocato. Infine, ultimo ma non per importanza, il mio ragazzo, Luca, che lavora in banca ed ha una pazienza elefantina, soprattutto con me. Come vedi, sono una donna fortunata. Complimentoni per la tua famiglia splendida. Ti invidio un po', i tuoi nipotini, io adoro i bambini. Non vedo l'ora di diventare zia. Quanto a leggere e allo scrivere è una passione che ho anche io, assieme a quella per i libri antichi. Sì, è una cosa di cui ti volevo parlare. Possibile che, più vado avanti nelle mie letture sui Vangeli, più quello che mi assale è un senso di paura. Mi dispiace da morire, non ho intenzione di smettere, ma certi passi mi spaventano proprio. Ho la sensazione di trovarmi di fronte a qualcosa di troppo più grande di me, che sfora di tantissimo dai miei limiti di comprensione. Vorrei non essere così vigliacca, uffi. La tua attività di ecologismo spirituale è notevole, complimenti. Con affetto, Monica Momo. Le lettere di Monica iniziano a diventare sempre più personali ed intime, e questo è normale per chi desidera vivere con il prossimo non in modo superficiale e ipocrita. E così ha raccontato anche quello che non tutti raccontano, e cioè che nel leggere la parola di Dio con l'intenzione di capirla, può succedere che la paura assalga chi legge la Bibbia, portandolo conseguentemente a desiderare di smettere. Ma Monica, di fronte a questo sentimento che ha del divino e del diabolico, non vuole cedere. Che certi brani della scrittura spaventino è normale, perché Dio parla di condanna a chi non ha posto fede in Cristo, quindi è normale che l'incredulo sia indotto a sentirsi in colpa. Ma se questo sentimento ha Dio come fonte, Egli comunque continuerà la lettura, mentre vi è anche la paura che incute il diavolo, la quale stimola la persona ad abbandonare la lettura della parola di Dio. In questo sta la differenza tra la paura di Dio e quella del diavolo. Quella di Dio attira l'uomo a Cristo. La paura diabolica allontana l'uomo da Dio. Perciò, la paura di Monica era proveniente da Dio perché, nonostante tutto, lei era decisa di continuare il suo percorso e la sua ricerca di Dio. Le parole di Monica: ho la sensazione di trovarmi di fronte a qualcosa di troppo più grande di me, che sfora di tantissimo dai miei limiti di comprensione. Vorrei non essere così vigliacca, mi hanno toccato, ma capivo che tramite la posta elettronica non era possibile dire ciò che avrei voluto. Ormai era giunto il momento di parlare a voce perché si era arrivati ad un punto talmente confidenziale da non poter più dire certe verità per iscritto, anche perché lo scritto è sempre metallico. Non esprime emozioni né tono di voce, mentre in certe particolari conversazioni le emotività sono fondamentali. Così ho risposto come segue. Cid, 1. Come sono stupido, sono tutto emozionato. Va bene per giovedì verso le 13. Se hai bisogno di cambiare orario, dimmelo pure. Decidi tu dove dobbiamo trovarci, perché io sono imbranato per i locali. Non è mia abitudine mangiare pizze o frequentare bar. Lo faccio solo in casi particolari, quando ci sono perle da raccogliere. Per riconoscerci ho pensato ad una cosa romantica, ma il cui scopo è quello pratico. Io avrò una rosa in mano. Quando vedrai un imbranato, con i capelli bianchi, con una rosa, non potrai sbagliare. Riguardo alla tua reazione nei confronti della parola di Dio, dobbiamo parlare a voce. Tanto, ormai ci vedremo. A presto. Come sempre, Monica ha risposto subito, e come sempre, in modo meraviglioso. Allora, deciso, dopodomani alle 13. Gulp. Per quanto riguarda il luogo, a me verrebbe comodo giocare in casa, cioè sceglierne uno sulla Vignolese, vicino al campus e al policlinico. Dove? Studio. Se per te è scomodo, non hai che da dirlo, un tram faccio presto a prenderlo. Avevo pensato, comunque, nel caso a te andasse bene la zona, a due alternative. La prima è una vera e propria pizzeria, ma io non ci sono mai stata, perciò non ho idea se si mangi bene ed è sempre un po' piena. Comunque ne ho sentito parlare bene. La seconda è un bar dove pranzo di abitudine, di cui non ti posso dire granché riguardo la cucina, bisogna sapersi accontentare, ma di certo è un posto piuttosto tranquillo. Dimmi pure quali sono le tue preferenze e farò in modo da organizzare. Mi è piaciuta moltissimo l'idea della rosa, bravo! Pensa un po', che io già temevo di dovermi fare le treccine per rendermi riconoscibile. Per la serie, l'unica ventenne conciata come Pippi Calzelunghe. Possiamo davvero dire che mi hai tolto d'impaccio. Temo di essere davvero felice. Ed emozionata, sai, felice soprattutto, perché finalmente potremo guardarci negli occhi mentre parliamo, che per me è una cosa importante. Stai facendo molto per me, grazie. Spero che non te ne dovrai mai pentire. Spero di riuscire con il tempo a meritare quello che stai facendo. Sto facendo un po' di fatica per convincere tutto il mio gruppo che non serve che mi accompagnino fino all'appuntamento. Sinceramente non capisco se sono preoccupati che io mi faccia venire un attacco di timidezza e scappi, o se sono solo curiosi di vedere chi è questa persona che mi sta aiutando a iniziare un cambiamento che desideravo da sempre. Punto che desideravo da sempre. Sono una privilegiata in molti sensi. Vabbè, devo dire che sono lettere che non si ricevono tutti i giorni, e la sincerità, la freschezza, l'imbarazzo tipico della giovinezza trasuda da ogni parola. Si trattava di poco, e finalmente, meno come dice Monica, ci saremmo guardati negli occhi mentre parliamo. Il suo desiderio di voler iniziare un cambiamento che, meno come dice Monica, da sempre desiderava avvenisse mi rende leggermente nervoso. Cosa sarebbe successo nel nostro incontro? Sarei stato in grado di aiutare Monica a raggiungere l'obiettivo che si è proposta? Dopo aver parlato a quattro occhi, il nostro rapporto con un certo contenuto di curiosità sarebbe andato avanti. Sono domande alle quali daremo risposta nella prossima trasmissione. 5 spot. Vuoi conoscere com'è andato l'incontro con Monica, una ragazza che ho conosciuto tramite posta elettronica e che alla fine si è arresa a Cristo? Certo, non è stato facile per lei porre una reale fede in Cristo, ma le lotte spirituali che ha dovuto affrontare l'hanno ricompensata. Se mi ascolti su CRCFM sarai entusiasta nell'ascoltare le sue parole. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, in questa trasmissione racconterò come finalmente ho visto di persona Monica, la ragazza con la quale ho avuto una stupenda corrispondenza per posta elettronica. Chi mi ha seguito in queste ultime 4 trasmissioni sa che Monica si è messa in contatto con me perché aveva problemi di fede, uno dei quali era come arrivare a conoscere Dio. Durante la corrispondenza Monica ha rivelato sempre più in modo evidente come nel suo cuore ci fosse un vuoto che lei stessa non sapeva spiegare, ma che cercava di colmare in molte maniere. Dopo poco più di un mese abbiamo sentito ambedue il bisogno di incontrarci a tu per tu perché ormai era necessario instaurare un dialogo verbale, irrealizzabile tramite posta elettronica. E così siamo arrivati a dare le coordinate per poterci vedere. Per farmi riconoscere mi sarei presentato con una rosa in mano. Per chi non ha potuto ascoltare la trasmissione precedente, riascoltiamo in parte ciò che Monica aveva detto nella sua ultima lettera. Allora, deciso, dopodomani alle 13. Gulp, per quanto riguarda il luogo, a me verrebbe comodo giocare in casa, cioè sceglierne uno sulla Vignolese, vicino al campus e al policlinico dove studio. Mi è piaciuta moltissimo l'idea della rosa, bravo. Pensa un po', che io già temevo di dovermi fare le treccine per rendermi riconoscibile, per la serie, l'unica ventenne conciata come Pippi Calcelunghe. Possiamo davvero dire che mi hai tolto d'impaccio. Temo di essere davvero felice ed emozionata, sai. Felice soprattutto perché finalmente potremo guardarci negli occhi mentre parliamo, che per me è una cosa importante, stai facendo molto per me, grazie. Spero che non te ne dovrai mai pentire e spero di riuscire, con il tempo, a meritare quello che stai facendo. Sto facendo un po' di fatica per convincere tutto il mio gruppo che non serve che mi accompagnino fino all'appuntamento. Sinceramente non capisco se sono preoccupati che io mi faccia venire un attacco di timidezza e scappi, o se sono solo curiosi di vedere chi è questa persona che mi sta aiutando a iniziare un cambiamento che desideravo da sempre. Sono una privilegiata in molti sensi. Alla mia risposta è stata fulminea. Cid 1. Grazie per l'incoraggiamento. Il bar dove pranzi di abitudine mi va bene. Desidero la tranquillità. C. È un solo bar al policlinico. Se fosse possibile, vorrei che tu venissi da sola. Te lo chiedo, perché ora sono io molto imbarazzato. Se i tuoi amici e non solo insistono di accompagnarti, Monica, non interpretare male ciò che ti propongo. Digli un posto e noi ci troviamo in un altro. Perdonami di questo gioco. Ma sono molto timido. Fa come vuoi, però. Non ho il diritto di tanta fiducia. Anche per me è importante guardare negli occhi. Però, accidenti, dopo una corrispondenza ed un entusiasmo del genere, mi hai già messo a KO. Anche la risposta di Monica è stata fulminea. Allora, e per domani, regalp. Il luogo è il Fashion Café, N635 della Vignolese, poco lontano dall'intersezione fra Via Campi e la Vignolese, dalla parte opposta al McDonald's. Centro commerciale Igelsi. Spero che le indicazioni siano chiare. Direi che ti aspetto alle 13 lì fuori, ok? Se hai domande, le aspetto nella email di domattina. Per quanto riguarda i miei amici, non avevo intenzione comunque di farli venire, ma glielo dirò semplicemente perché non mi piace mentire, soprattutto alle persone che mi vogliono bene. E in quanto alla fiducia, caro Ellero, a parte che ho fiducia in te, anche se tu mi avessi spudoratamente mentito e in realtà fossi un maniaco, avresti una brutta sorpresa. Ho 2 spalle rubate all'agricoltura che non fanno di me una donzella indifesa. Comunque, scherzi a parte, mi fido sinceramente di te. Ti ho aperto il mio cuore, vuoi che non mi fidi a mangiare insieme? Capisco e rispetto la tua timidezza, sono così anche io, e non vorrei mai metterti in imbarazzo. Con affetto Monica Momo, non mi rimaneva che rispondere che avevo letto la sua posta, e così ho scritto CID 1. Grazie, le indicazioni sono ottime, Dio volendo sarò presente. E punto beh, ciao. Ormai era fatta. Sarebbero passate poche ore e finalmente avrei visto di faccia questa mia simpatica ed estroversa ragazza che meno come mi ha detto meno mi ha aperto il suo cuore ed ora era pronta a risolvere il suo problema spirituale a qualsiasi prezzo. Dio aveva operato nel suo cuore, a me non rimaneva altro che prendere coscienza del suo rapporto con Dio per poterla aiutare dove era possibile. Ci siamo incontrati al bar vicino al policlinico dove Monica studiava. Tutto emozionato. Sono entrato nel bar con la rosa in mano in attesa di vedere Monica, sotto gli sguardi curiosi dei presenti nel vedere un uomo attempato, goffo e imbarazzato con un fiore che la diceva lunga. Un uomo che ha una bella rosa in mano non la porta per bellezza, e si sa che generalmente è destinata a qualche donna. Il barista mi squadra. Osserva la rosa e mi chiede cosa desidero, e la mia risposta lo inchietrisce. Sto aspettando una ragazza. Un lieve sorriso sulle labbra tradisce la sua malignità. Giunto l'orario, di Monica non c'era neppure l'ombra, e solo dopo vario tempo ho visto entrare una ragazza con gli occhi sperduti che puntava gli occhi sulla mia rosa. Capito che era lei, mi sono presentato e subito ho preso una bella lavata di testa. L'appuntamento era fuori dal bar e non... D.E., Nuovo Testamento R.O., e lei aspettava fuori. Ho espresso subito le mie scuse, ma del resto ero contento che avesse subito conosciuto che sono un uomo impacciato, e dopo la pizza siamo usciti fuori vicino in un bellissimo parco, con una stupenda giornata di sole. Vedendomi così imbranato, Monica si è sentita subito a suo agio. Sapeva di non avere a che fare con un Superman, e di questo io ero felicissimo, perché se la conversazione avesse avuto risultati positivi, non sarebbe stato di certo per un fascino particolare che possedevo. Abbiamo iniziato a parlare della sua ricerca di Dio, dei suoi sentimenti contrastanti, delle sue gioie e dei suoi dolori, delle sue speranze e attese della vita. Monica era una ragazza non contraria alle cose di Dio, conosceva Cristo quel tanto che la religione lo permetteva. E come ogni creatura umana aveva bisogno di risolvere una volta per sempre la questione del suo rapporto con Dio. Io le ho presentato il messaggio del Vangelo, spiegandole che non è un messaggio rivolto in senso generale, meno anche se è rivolto a tutti, meno ma è l'annuncio di una relazione personale con Cristo quando lo si crede e si accetta Gesù quale unico Signore e Salvatore della propria vita. In un ambiente religioso dove un rapporto personale con Cristo è quasi del tutto assente, il messaggio evangelico, l'invito ad accettare personalmente che Cristo sia morto per me e per darmi mediante un atto di fede il perdono totale di tutti i miei peccati, si rivela traumatico per chi lo prende sul serio. Vedevo Monica lottare contro questa richiesta da parte di Dio, e Dio, come è mia abitudine, inesorabilmente la invitavo ad arrendersi completamente a Cristo. Il giorno dopo, ricevo la sua email. Ciao Ellero, come ti va? Io non mi sento per nulla bene oggi. Per essere più precisi, ho l'impressione che un convoglio di camion a rimorchio mi sia passato sopra, poi abbia innestato l'aretro e finito il lavoro. Il nostro incontro di ieri mi ha fatto piacere, ma evidentemente ha prodotto effetti collaterali a cui non ero pronta. Mi sento tanto svuotata. Comunque, non credo che importi. Ho raccontato tutto a Luca e abbiamo finito per litigare fino alle 10 di sera. Alla fine siamo arrivati alla conclusione che qualunque scelta prenderò lui farà del suo meglio per venirmi incontro e capirmi. La parte peggiore è stata quando, dopo essersi reso conto che questa è una cosa fra me e me, e che non sono disposta a cedere a nessuna influenza esterna, mi ha chiesto cosa sarebbe potuto cambiare nella mia vita. La risposta che mi è venuta in mente è stato tutto. Poi, dopo una riflessione sul lato più pratico, la risposta è stata niente. Continuerò a essere io, continuerò ad avere i miei gusti e le mie inclinazioni, continuerò a fare medicina, a cucinare, a guardare i vecchi film coi miei amici. Perché deve essere così difficile? Forse mi sento solo grigia come il tempo. Però non sto bene ugualmente. Mi sento un po' come se una parte di me fosse stata violata, come se qualcosa in me piangesse, ma non riesco a piangerci insieme. Comunque, continuiamo per la nostra strada, si vedrà poi cosa succede. In fondo al mondo ogni cosa ha un suo prezzo, e quello per cui sto lottando, sono disposta a pagarlo molto. Vale molto. Con affetto, salutami, Lidia Monica. Queste sono lettere che si vorrebbero ricevere ogni giorno. Che stupenda descrizione della lotta spirituale per chi con tutto il suo cuore vuole conoscere Dio tramite Gesù Cristo. Monica si sentiva tritata da un camion a rimorchio che avesse innestato l'aretro e finito il suo lavoro, subiva degli effetti collaterali alla quale non era pronta. La sua ricerca ha prodotto una separazione temporanea. Con il suo ragazzo comprendeva che la strada imboccata la portava a stravolgere le abitudini della sua vita. Ma meno, e questo era l'importante, meno era disposta a lottare e pagare molto pur di arrivare a conoscere Cristo che, meno come ha definito, meno vale molto. Questo è il giusto atteggiamento per arrivare ad ottenere il perdono totale di tutti i peccati e ricevere la gioia eterna di una comunione personale con Cristo. Ma la storia non finisce qua perché il bello deve ancora venire e questo lo ascolteremo nelle prossime trasmissioni. 6. Spot. Vi sono persone che vorrebbero credere in Cristo, ma non sanno cosa fare. Ebbene su CRC FM ti farò conoscere com è andata una corrispondenza con Monica, una ragazza che ho conosciuto e che alla fine si è arresa a Cristo. Una stupenda storia con una incantevole lieto fine che vale la pena ascoltare assieme ad altre persone, perché i commenti positivi non mancheranno. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che Dio benedica il vostro impegno nell'ascoltare queste trasmissioni, perché in esse leggiamo la parola di Dio e raccontiamo degli episodi di persone che giungono alla conoscenza della verità e di Cristo. Da 5 trasmissioni sto raccontando la mia esperienza con Monica, una ragazza con la quale ho avuto una corrispondenza epistolare tramite la posta elettronica. Dopo varie lettere abbiamo ambedue avuto il desiderio di conoscerci, e così, un giorno siamo andati in un parco pubblico dove ho avuto il piacere e privilegio di presentarle il messaggio del Vangelo, il quale chiama le persone ad un incontro personale con Cristo per ottenere il perdono dei peccati una volta per sempre. Dopo questo incontro Monica mi ha scritto una lettera, talmente bella che anche oggi desidero porre al vostro ascolto per poi trarne altre riflessioni. Ciao Ellero, come ti va? Io non mi sento per nulla bene oggi. Per essere più precisi ho l'impressione che un convoglio di camion a rimorchio mi sia passato sopra, poi abbia innestato l'aretro e finito il lavoro. Il nostro incontro di ieri mi ha fatto piacere, ma evidentemente ha prodotto effetti collaterali a cui non ero pronta. Mi sento tanto svuotata. Comunque, non credo che importi. Ho raccontato tutto a Luca e abbiamo finito per litigare fino alle 10 di sera. Alla fine siamo arrivati alla conclusione che qualunque scelta prenderò lui farà del suo meglio per venirmi incontro e capirmi. La parte peggiore è stata quando, dopo essersi reso conto che questa è una cosa fra me e me e che non sono disposta a cedere a nessuna influenza esterna, mi ha chiesto cosa sarebbe potuto cambiare nella mia vita. La risposta che mi è venuta in mente è stato tutto. Poi, dopo una riflessione sul lato più pratico, la risposta è stata niente. Continuerò a essere io, continuerò ad avere i miei gusti e le mie inclinazioni, continuerò a fare medicina, a cucinare, a guardare i vecchi film coi miei amici. Perché deve essere così difficile? Forse mi sento solo grigia come il tempo. Però non sto bene ugualmente. Mi sento un po' come se una parte di me fosse stata violata, come se qualcosa in me piangesse, ma non riesco a piangerci insieme. Comunque, continuiamo per la nostra strada, si vedrà poi cosa succede. In fondo, al mondo, ogni cosa ha un suo prezzo. E quello per cui sto lottando sono disposta a pagarlo molto. Vale molto. Con affetto, salutami, Lidia Monica. Già l'inizio della lettera è molto toccante. Monica mi chiede come sto quando lei è sottosopra. È tutta sconvolta. La conversazione su Cristo Gesù è arrivata nel più sprofondo del suo essere e spesso mi chiedeva com'era possibile conoscere Cristo e cosa dovesse fare. La vedevo disposta. Voleva compiere qualcosa, ma era come uno improvvisamente illuminato riguardo al valore di sapere, leggere, il quale non se ne fosse mai interessato prima. Voleva, ma non poteva, e così gli ho risposto. In questo modo. Cid, 1. Cara Monica, dire che sei meravigliosa è essere a metà strada. Quante cose hai capito? Come disse Gesù a Pietro, posso dirti anch'io, non è per sapienza umana che hai compreso questo, ma per lo Spirito Santo. Comanda la tua volontà di arrenderti. Le parole che si devono dire al momento opportuno della conversione sono sempre molto personali. Alcune cose però sono comuni a tutti. Esse possono essere riassunte in una preghiera simile. Signore Gesù, fino ad oggi ho vissuto secondo il mio punto di vista. Tu sei stato un ospite e non il padrone nella mia vita. Per questo ho commesso tanti peccati e disonorato il tuo nome. Io merito solo la condanna all'inferno. Però so che tu sei morto in croce per me. Per tutti i miei peccati, presenti, passati, futuri. Io credo di non essere degna del tuo perdono. Per questo accetto, per grazia, che il tuo sacrificio sia sufficiente a perdonarmi e rendermi degna di essere accolta in cielo. Prendi la mia vita. Io sottometto la mia volontà alla tua. Da ora in poi sei il padrone della mia vita, dei miei desideri, della mia volontà, delle mie ambizioni. Mi arrendo ora e credo che tu sia il mio personale salvatore e Signore. Se si è pregato con il giusto spirito, se le parole sono state formulate con cognizione di causa, generalmente si avverte una grande pace e gioia. Spesso una simile preghiera viene formulata con molta difficoltà e con lacrime. Cara Monica, perché tu possa prendere atto di come io ho realizzato la conversione, o meglio la mia resa, ti mando la mia testimonianza. Se vuoi, puoi stamparla per te e per i tuoi amici, verso i quali nutro già dell'affetto. Prego Dio perché sparga il suo spirito su di te e tutti voi, uno spirito di ravvedimento e di conversione. Ti aspetto, assieme a milioni e milioni di persone dalla parte opposta del fiume. Attraversarlo non è facile, ci vuole coraggio, sì. L'Evangelo è per adulti, uomini e donne, con un carattere determinato. E tu, Monica, sei una di quelle. Ti abbraccio, come padre e come nonno, con sincero affetto. Ellero. Sono consapevole che la conversione è un'opera che compie solo lo Spirito Santo, ma sono pure consapevole che per molte anime occorre anche un aiuto morale e razionale, e per questo di tanto in tanto conduco per la mano le anime alla croce di Cristo. Cosa significa condurre le anime a Cristo? Significa dare alle persone anche alcune regole senza le quali non è possibile diventare figli di Dio. Una regola, ovviamente, è cercarlo con tutto il cuore e accettare illimitatamente la condizione posta da Dio, e cioè di essere salvati senza nessun merito. Poiché mi rendo conto della mia debolezza nel parlare di Cristo, ho detto a Monica che sarei stato contento se fosse venuta a casa mia anche per conoscere mia moglie, perché a volte una voce in più, e anche femminile, può essere di aiuto. Monica, dopo la mia lettera, mi risponde con le seguenti parole. Perché io continuo a non capire? Perché mi sembra di non recepire il senso delle tue parole ogni volta che mi spieghi come raggiungere la conversione? La risposta una parte di me la sa. Quash è parte di me che non vuole capire, che non vuole abbandonare la vita comoda di adesso, le scelte facili che mi hanno accompagnata finora. Non voglio forzarti a nulla, ma ti sarò grata se mi scriverai le parole che mi hai detto ieri quando ti ho detto le stesse cose. In questo modo le potrò rileggere ogni volta che quella parte vigliacca mi presenterà questa scusa e vincerla. Per tutta la vita io, come ogni altra persona, secondo me, mi sono sentita incompresa, disarmata, sola, anche quando non era vero, per un solo motivo. Non ho mai permesso a Dio di comprendermi, amarmi, stare con me. Non gli ho mai aperto il mio cuore fino in fondo. E questo non è giusto, non perché, così facendo, lui non è stato partecipe della mia vita, cosa assurda, contraddizione in termini, ma perché io non ho potuto essere partecipe della vera vita. Lui è sempre stato buono con me, ed è giunto il momento che io smetta di far finta di non conoscerlo, non trovi? Per questo ti chiedo di scrivere ciò che mi hai già detto. Non accetto scuse dalla Momo. Credo che prima o poi accetterò il tuo invito. Sinceramente, da come me ne hai parlato, sarei felice anch'io di conoscere la tua dolce metà. Quindi ti ringrazio fin d'ora. Qui ti salutano tutti, Monica. Ciò che Monica ha detto ha messo in evidenza come sia difficile porre una fede salvifica in Cristo. Per prima cosa, Monica ha onestamente ammesso che non riesce a capire. La cosa è molto strana da un punto di vista umano, ma è talmente comune che non ci facciamo caso. Parliamo tutti e due l'italiano, siamo sullo stesso piano culturale, parliamo di aspetti religiosi riguardanti la nascita, morte e resurrezione di Gesù, conosciuti fin da bambini, eppure quando si tratta di comprendere cosa occorre fare per diventare figli di Dio, chi non sia tale, si trova nel buio più totale e nell'incapacità più assoluta di comprendere. E, da notare che Monica ha frequentato il catechismo, e per la religione cattolica romana essa è una credente e figlia di Dio, eppure, ora che Dio le chiede la vera fede che salva, si trova nella più terribile tempesta di interrogativi, e in merito a Cristo, confessa, non gli ho mai aperto il mio cuore fino in fondo. Quanta gente pensa di essere in regola con Dio, ma non ha aperto il proprio cuore fino in fondo per essere salvata? Quanta gente? Purtroppo la risposta è drammatica. Non hanno aperto il loro cuore a Cristo per essere salvati tutti coloro che sono felici di essere solamente religiosi, tutti coloro che sono appagati della propria appartenenza ad una religione, senza porsi minimamente il problema se veramente sono salvati. Ma mi si è permesso di dire che gran parte della colpa per la condanna eterna delle persone cade sulla religione cattolica romana, perché insegna che si diventa figli di Dio mediante il battesimo da neonati. Ecco perché le persone non si pongono il problema del loro rapporto con Cristo. Infatti, anche Monica si sentiva cristiana fino in fondo. Lo scopo delle autorità religiose cattoliche romane non è quello di condurre le anime a Cristo, ma di indurre le persone ad ubbidire alle autorità religiose stabilite da esse, quali il Papa, i Vescovi o i Sacerdoti. Pochi, pochissimi o forse nessuno ha compreso questo. È sempre doloroso constatare quanto il cattolicesimo romano abbia attribuito a se stessa l'autorità di Cristo quale Signore e Padrone. È ancora più doloroso denunciarlo. Non facendolo tanto per giudicare le intenzioni, perché solo Dio conosce i cuori degli uomini, ma per giudicare dei fatti. Ed è per questo che, giungendo a conoscere il vero Evangelo come è accaduto a Monica, i cattolici sono tremendamente confusi, si sentono cristiani fino in fondo, cosa questa che non dovrebbe assolutamente accadere se il cattolicesimo romano annunciasse il vero Evangelo, anziché la necessità di essere sottomessi al Papa e ai Vescovi. Ma le lettere di Monica non terminano qui. Ne ha scritte delle altre stupendamente meravigliose, che vi invito ad ascoltare per non perdere il racconto della sua conversione da lei stessa narrato nella prossima trasmissione. E meglio perdere 1.000 euro che non ascoltare la conversione di Monica. Quando l'avrai ascoltata mi darai ragione. 7. Non so se hai ascoltato le trasmissioni precedenti in merito alla corrispondenza che ho avuto con Monica. Se ascolti la prossima trasmissione su CRCFM, sentirai la bellissima testimonianza della sua conversione a Cristo. Non perderla, anzi, invita i tuoi amici e parenti ad ascoltare non tanto me, ma Monica. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che Dio benedica la vostra costanza nell'ascoltare queste trasmissioni. Chi ci segue regolarmente sa che nelle 6 precedenti trasmissioni abbiamo parlato di Monica, una ragazza che si è messa in contatto con me con la posta elettronica per affrontare un suo problema spirituale. Dopo alcuni contatti epistolari piuttosto frequenti, ci siamo visti e abbiamo parlato a quattro occhi in un parco dopo aver mangiato una pizza, e l'ho incoraggiata a prendere sul serio l'ordine di Dio di porre fede in Cristo per ottenere il perdono totale dei propri peccati. Mi ha scritto una prima lettera dove ha espresso il suo subbuglio spirituale, e dopo qualche giorno ne ho ricevuta un'altra del seguente tenore. Carissimo Ellero, ho avuto un intero weekend a disposizione per metabolizzare tutti gli avvenimenti degli ultimi tempi. Erano talmente tanti che, dato che io rifletto meglio facendo qualcosa con le mani, ho la casa più pulita di quanto fosse da anni. Oltretutto ho scoperto una cosa che non avrei mai immaginato. Da quando ho pregato assieme a te, giovedì, ho scoperto che pregare dà assuefazione. Non riesco più a farne a meno, è una sensazione davvero bellissima. Non mi ero mai accorta, peraltro, di farlo nel modo sbagliato. Praticamente, hai fatto di me una drogata. Scherzo, ovviamente. Ho preso una decisione molto chiara in me, dopo questo tempo di riflessione e preghiera. Io devo essere di Dio, o non sarò mai viva. Sarò un morto che attende la morte. Questo non lo voglio, questo è sbagliato quando è la possibilità di vivere. L'uomo è creato per essere vivo. So anche che ci è una cosa che manca prima che io possa compiere la mia tutto conversione a Dio. Devo ciò che ha sofferto anche per me. Ma è difficile, mi fa male pensarlo. Continuo a ripetermi che non è giusto, che non fare una cosa del genere per persone come me. Finché non riuscirò a interiorizzare il fatto che lui sa quello che fa. Sempre che non ho il diritto nemmeno di pensare queste cose, non sarò del tutto di Dio. Credo che questo lo sappia anche tu. Ma sono felice. Non manca molto ormai, prima che io possa essere con lui, averlo come mia guida, per sempre. E allora finalmente i miei occhi si apriranno alla luce. Cavoli, che magone a pensarci. Ti voglio bene. Monica, lo merito, che non avrebbe dovuto riuscire ad accettare che Gesù abbia sofferto. Le parole di Monica mostrano come si possa trovare un'anima di fronte al messaggio del Vangelo. Quando si predica il vero messaggio di Cristo, non è possibile che folle immense l'ascoltino con gioia, per poi rimanere quelle che sono sempre state. Perciò è normale concludere che oggi dai pulpiti si predica un Vangelo che non è quello di Cristo, ma il Vangelo religioso che permetta alla gente di avere la forma della pietà senza viverne la potenza. Conscio di questo, il giorno stesso, ho risposto a Monica con le seguenti parole. Cid, 1. Grazie Monica per le tue lettere. Ormai mi sono affezionato a questa bella corrispondenza. Se mi credi, vorrei corrispondere con te ogni giorno, ma vi è un pericolo del quale debbo metterti in guardia. Pericolo, tra l'altro, che ti ho già detto. Tu sei una ragazza toccata da Dio, amata da Lui. Hai compreso molte cose, tante cose. Hai capito più tu in un mese che altri, in anni. E ciò mi rende felice. Però, come tu dici, devi decidere. Hai detto che non manca molto. Come se fossi tu a decidere quando appartenere a Dio. Secondo la Bibbia, la parola di Dio, il giorno è oggi. Ecco perché ho sempre fatto leva sulla tua volontà. Decidi di volere, Monica. Ricordati che la scelta che fai riguarda Gesù Cristo, Dio stesso. Quello che hai scritto può nascondere tante cose, e cioè, come hai scritto. Ma è difficile, mi fa male pensarlo. Continua a ripetermi che non è giusto, che non lo merito, che non avrebbe dovuto fare una cosa del genere per persone come me. Questa riflessione può dire due cose. Uno, può scaturire da un cuore umile che in tal caso accetta il sacrificio con il più profondo senso di indegnità. Accetta e ringrazia. Accetta e loda. Due, può scaturire da un cuore orgoglioso che, in tal caso, rifiuta il sacrificio perché non vuole essere salvato solo per grazia. Dato che è umiliante dover realizzare la totale dipendenza da Dio. Ha fatto così il diavolo e ne ha pagato le conseguenze per l'eternità. Io continuo a pregare per te. Assieme a me pregano altri. Noi ti aspettiamo, Monica. Ti aspettiamo, come tu hai detto, nel mondo dei vivi. Che Gesù Cristo mantenga costantemente la sua mano su di te. Ti aspetto. Con affetto, Ellero. Ora non mi rimaneva che attendere la sua risposta. Avrebbe compreso Monica la serietà dell'invito di Cristo? Inutile nascondere la mia trepidazione. Monica avrebbe accolto il messaggio di Cristo? Così, il giorno dopo ho aperto la posta con un certo tremore e per poco non mi viene un infarto dalla gioia. Ed ora, cari ascoltatori, ascoltate la testimonianza di Monica. Per una volta, la tua mail mi è arrivata in ritardo. Ho già deciso, già accettato. Ho deciso che non mi interessa quello che io penso di meritare o no, ma mi interessa solo che lui mi abbia dato la possibilità di salvarmi con il suo sacrificio. Ho accettato che ci sono cose che io non posso e non devo capire, che l'importante è che le sappia Gesù e che io accetti la sua guida. Sono solo un essere umano. Se comprendessi tutte le azioni di Dio, il peso mi schiaccerebbe. Ieri sera ho pregato, a voce alta come mi hai insegnato tu il Vangelo, a dirla tutta. Mi sentivo tanto affranta e tanto piccola, tanto lacerata. Gli ho chiesto di prendermi e guidarmi, di salvarmi. Gli ho chiesto di aiutarmi a strappare la parte di me che ancora non cedeva. Sai cosa? Credo che mi abbia ascoltato. Se è possibile sentirsi abbracciati da Dio, a me è successo. Adesso, almeno, non ho più paura. Sono pronta a ripetere la mia scelta ogni giorno, ad accettare anche ciò che non comprendo e ad obbedirgli qualunque cosa mi comandi, perché so che lui non permetterà mai che mi accada il vero male, se non sarò io ad allontanarmi. E so che nelle sue mani nulla di male mi può accadere. I miei averi non sono che oggetti e un giorno li dovrò comunque lasciare. Le persone che amo sono sue, quindi dipende da loro se rimarremo insieme o no. Il mio corpo non è che un pugno di molecole. Un giorno morirà comunque, quindi per assurdo che mi ammazzino pure sai quanto cambia. E infine se la mia anima è sua non c'è chi e nulla che la possa ferire. Meglio di così, punto adesso devo andare, anche perché sento il bisogno di godermi questa sensazione nuova. Scusami, non è che te ne voglio tenere fuori, sono certa che mi capisci. Io non so se questa è quella che tu chiami conversione. Ma so di certo che è più di quanto io abbia mai avuto in vita mia. Che è la prima cosa? Vorrei farvi notare, cari ascoltatori, un particolare che dimostra come sia Dio a condurre le anime a Cristo. La mia posta è stata sempre regolare, ma questa volta è arrivata in ritardo dando a Monica il tempo di mettersi davanti all'opera di Cristo seriamente e di accettare con tutto il cuore che il suo sacrificio è stato sufficiente per perdonarle i peccati. Dopo aver letto la lettera di Monica, ho adorato il mio Dio Trino perché egli ancora oggi è in grado di salvare coloro che lo cercano sinceramente. E è vero, come dicono alcuni, che oggi ci sono molte religioni, molte sette, e tutti vogliono avere ragione, ma è anche vero che in questa bolgia di religiosità Dio è in grado di condurre sulla strada giusta coloro che hanno un cuore sincero e cercano la salvezza per grazia mediante un atto di fede. Così, con questa fede ho risposto a Monica. Cid 1. Alleluia, alleluia. Sono felice di essere arrivato in ritardo. La descrizione della tua esperienza mi fa pensare ad una vera conversione. Ti devo confidare che ho pianto di gioia. Ora che hai sperimentato di essere stata abbracciata da Dio, vivi in questa situazione. Forse un giorno, come hanno fatto altri, sarai tentata di svincolarti dal suo abbraccio, ma una volta che ti sei resa a Gesù, lui ti ha preso sul serio e gli appartieni per l'eternità. Gesù, ora, è la tua guida, la tua luce, la tua sapienza, la tua forza, la tua vita. Monica, sei nella braccia di Cristo Gesù. Chi ti separerà dal suo amore? Ti rinnovo l'invito di venire a casa mia per il pranzo. Puoi decidere come vuoi. Se il tuo giorno libero è il giovedì, potresti venire fin dal mattino direttamente a Formigine. Ti farò conoscere alcune sorelle nella fede. Se invece preferisci fermarti ritornando da Modena, fa lo stesso. Ti aspetto sempre a pranzo. Se hai delle difficoltà, è sufficiente che tu me le dica. L'importante è che ti veda per fare due chiacchiere. Un abbraccio forte, forte, forte. Ellero. Non potevo che esprimere la mia gioia a Monica. E nello stesso desideravo vederla per rallegrarmi con lei di persona e per avviare un rapporto più personale, ora che Monica aveva scelto Cristo. Quale Signore Salvatore, il mio compito non era finito, come non è finito il compito di una mamma che ha dato alla luce un figlio. Il lavoro più grande e impegnativo inizia al momento del parto. Volevo vedere di nuovo Monica, volevo che conoscesse mia moglie, volevo che avesse l'opportunità di conoscere altre sorelle nelle fede, perché sapevo che la sua decisione per Cristo avrebbe trovato seri ostacoli in una società definita cristiana, ma che di cristiano ha solo il nome. Inoltre, come le ho detto in seguito, sarebbe stata tentata a non rimanere costante, ed io sentivo tutta questa responsabilità di esserle vicino. Cosa avrebbe risposto Monica a questa mia lettera? Come sarebbero andate le cose? Tutto era possibile, ma andarono bene, e lo saprai se mi ascolti ancora su CRCFM. 8. Se non hai ascoltato le trasmissioni precedenti in merito alla corrispondenza che ho avuto con una ragazza di nome Monica, ti incoraggio a sintonizzarti su CRCFM per sentire come questa ragazza abbia posto fede in Cristo e come i primi passi della fede cristiana siano sempre difficili. Non perdere più nessuna trasmissione, perché non sempre si possono sentire parole come quelle di Monica. A proposito, invita anche i tuoi amici e parenti ad ascoltare la testimonianza di Monica. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti all'ascolto di questa 8ª trasmissione in merito a Monica, una giovane con la quale ho intrecciato una corrispondenza per posta elettronica. Dopo varie email ci siamo trovati, l'ho invitata ad arrendersi a Cristo, e in seguito Monica mi ha scritto un'esplosiva lettera che desidero leggervi anche in questa trasmissione, perché ne vale la pena. Per una volta, la tua mail mi è arrivata in ritardo. Ho già deciso, già accettato. Ho deciso che non mi interessa quello che io penso di meritare o no, ma mi interessa solo che lui mi abbia dato la possibilità di salvarmi con il suo sacrificio. Ho accettato che ci sono cose che io non posso e non devo capire, che l'importante è che le sappia Gesù e che io accetti la sua guida. Sono solo un essere umano. Se comprendessi tutte le azioni di Dio, il peso mi schiaccerebbe. Ieri sera ho pregato, a voce alta come mi hai insegnato tu il Vangelo, a dirla tutta. Mi sentivo tanto affranta e tanto piccola, tanto lacerata. Gli ho chiesto di prendermi e guidarmi, di salvarmi. Gli ho chiesto di aiutarmi a strappare la parte di me che ancora non cedeva. Sai cosa? Credo che mi abbia ascoltato. Se è possibile sentirsi abbracciati da Dio, a me è successo. Adesso almeno non ho più paura. Sono pronta a ripetere la mia scelta ogni giorno, ad accettare anche ciò che non comprendo e ad obbedirgli qualunque cosa mi comandi, perché so che lui non permetterà mai che mi accada il vero male se non sarò io ad allontanarmi, e so che nelle sue mani nulla di male può accadere. I miei averi non sono che oggetti e un giorno li dovrò comunque lasciare. Le persone che amo sono sue, quindi dipende da loro se rimarremo insieme o no. Il mio corpo non è che un pugno di molecole. Un giorno morirà comunque, quindi per assurdo che mi ammazzino pure, sai quanto cambia. E infine, se la mia anima è sua, non c'è è nulla che la possa ferire. Meglio di così. Punto adesso. Devo andare, anche perché sento il bisogno di godermi questa sensazione nuova. Scusami, non è che te ne voglio tenere fuori, sono certa che mi capisci. Io non so se questa è quella che tu chiami conversione, ma so di certo che è più di quanto io abbia mai avuto in vita mia. Che era prima cosa. Dunque, Monica aveva ubbidito alla voce di Dio, si era arresa gettando via il suo orgoglio, ed era diventa una figlia di Dio mediante un atto di fede e non tramite un rito battesimale. Le ho riposto, esprimendo la mia gioia. In seguito Monica mi ha risposto con queste parole. Ellero, ma quanto sei stato dolce e io veramente non ho parole per dirtelo. Sai, mi sento molto strana, anche se non è la parola giusta. Mi sembra di stare finalmente crescendo. Avrei voglia di parlarne, ma non so da dove cominciare. Poi sono certa che sono cose che per te sono ovvie, ma mi sembra quasi di stare vivendo una seconda preadolescenza, con dei cambiamenti velocissimi, ed insieme una seconda infanzia. Perché sto imparando tante di quelle cose da farmi sospettare di non aver mai visto il mondo prima. Comunque la cosa che mi rende in assoluto più felice è che quando gli parlo lui risponda. Quando mi sono resa conto che a te rispondeva, come ad Alice, te la farò conoscere, lei è veramente fantastica, noi la chiamiamo Nimida Nimirum, cioè colui che crede senza vedere. Ho pensato che a me non sarebbe mai accaduto. Per fortuna non è così. Un'altra cosa di cui sono felice è che, lentamente, i miei desideri si stiano mettendo sulla giusta lunghezza d'onda. Che, insomma, non mi venga più nemmeno voglia di fare o di avere ciò che non mi serve. Hai mai notato quanto ciò che è sbagliato e ciò che è inutile molto spesso collimino? Beh, sì, credo che tu l'abbia notato. Allora, news. Causa di forza maggiore. Il mio attuale giorno libero è il martedì. Non so se riuscirò ad accettare l'invito a pranzo a breve, ma so che voglio conoscere altra gente che abbia provato questa cosa se non ne parlo. Sento che esploderò. Ho la vaga impressione che il cristianesimo sia contagioso. Perfino Ezio ha deciso di leggere il Vangelo. Detto questo, non so che altro ci sia da dire. Sono felice e mi sento finalmente, per la prima volta, non credo che permetterò a niente di allontanarmi da lui. Le parole di Monica mostrano una evidente verità. Non Chuck, è bisogno di imparare delle formule religiose per esprimere ciò che succede quando si diventa figli di Dio. È sufficiente raccontare la propria esperienza, cosa che Monica sta facendo egregiamente. Così, senza tanto titubare, le ho mandato la seguente email. Cid 1, carissima Monica, spesso si scrivono moltitudini di parole senza dire, alla fine, niente. Con una sola parola, hai riassunto ciò che ti è successo, appagata nell'anima. Se tu non avessi fatto un reale incontro con Gesù, non avresti potuto esprimerti in questo modo. Ti ricordo, Monica, che non sei arrivata ma hai solo iniziato un lungo cammino. Paolo si espresse così. In 2 Corinzi 5, 16-17. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più. Così, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Come vedi, ciò che stai realizzando collima con la parola di Dio. In quanto alla mia dolcezza, ho le mie perplessità. Quando lo ritengo opportuno, ho parole di incoraggiamento, ma arriva il momento che bisogna anche esprimersi in modi diversi. Ma, conoscendoti, credo che la nostra corrispondenza, caratterizzata dalla massima franchezza, continuerà ad aiutarti a crescere. Fai delle descrizioni di ciò che ti sta succedendo veramente nitide e precise. Mi piace leggerti. Vai avanti. Sono d'accordo con te, non permettere a niente e nessuno di allontanarti da Gesù Cristo. Monica, appena uno diventa figlio di Dio, deve far correre la sua vita su due binari. La parola di Dio e la preghiera. Ti incoraggio a leggere la Bibbia ogni giorno. Come mangi? Tutti i giorni. Così leggi almeno 3 capitoli al giorno della parola di Dio. All'inizio della conversione, la preghiera diventa automatica, ma poi dovrai metterci tutto il tuo impegno. Impegno tra l'altro necessario anche per leggere la parola di Dio. Non voglio che tu esploda. Ti farò conoscere altre persone. Se non lo sai, all'università ci sono dei giovani che hanno fatto la tua stessa esperienza. Una tra queste è Rossella, figlia di un professore, iscritta all'ultimo anno di medicina. Vedremo come va la vita. Non mi hai detto nulla in riferimento alla mia testimonianza che ti ho allegato all'email di qualche giorno fa. Se non ti è arrivata, se ti fa piacere te la mando. Ciao, un saluto caloroso e fraterno, ora sei mia sorella. Lo sai? Ellero. Ormai, conoscendo Monica, aspettavo una lettera carina, ma quella che arrivò era semplicemente meravigliosa. Che bello, fratelli. Ora, tu sei il mio fratellone, è vero. Fratellone non solo per età, ma anche perché sei più avanti di me nel cammino. Soprattutto per questo. Sì, so che ho solo iniziato una strada lunga e difficile, anche se piena di gioia, e soprattutto giusta. Mi piace usare proprio questa parola. Giusta, perché credo sia quella che la definisce meglio. Credo che sia naturale per me. A questo punto, non sapere ancora quali luoghi attraverserà questa strada, ma so dove mi porterà se la seguo fino in fondo. Dio salverà chi avrà resistito sino alla fine. Matteo 10, 22. Quanto alla lettura della parola di Dio, la reputo una mia necessità imprescindibile. Piuttosto vado a letto un'ora dopo. Ma so che andando avanti nel tempo potrei trovare delle difficoltà, perciò sto cercando di stabilire degli orari, in modo che diventi per me un'abitudine, e si sa che le abitudini non si cambiano facilmente. Punto a ne, so qualcosa adesso che mi sto rendendo conto di quante delle mie erano sbagliate. Forse non sarà una tecnica proprio eccelsa, perché non vale un granché leggere la Bibbia, se non la si legge con tutto se stesso, ma può funzionare nel caso di emergenze. Lo stesso dicasi nei confronti della preghiera, con una differenza: se non prego sto proprio male. Non è che sento che mi manchi qualcosa, come nel caso della lettura, è proprio una questione viscerale. Mi sento persa. Comunque, devo tenermi in guardia contro me stessa. Non hai idea di quanto riesca ad essere marmotta e viziata, alle volte. Ah, dimenticavo. Ho detto che sei stato molto dolce, perché pensavo al tempo che ti deve essere servito per organizzare quella mail. Punto è al fatto che sei tanto felice per me. E, una cosa bellissima, Luca, alla fin fine, è rimasto piuttosto perplesso. Mi ha detto che pensava che sarei diventata una specie di fanatica religiosa. E, invece, non fai niente di male. Evviva le menti senza pregiudizi, eh? Povero caro. Credo che avesse paura di vedermi trasformare in una specie di Ignazio da Loyola, ma adesso che mi vede felice e ha capito, è molto felice anche lui per me. Ha detto che mi rispetta molto per la mia scelta, non mi aveva mai fatto un complimento tanto bello. Ti saluto, il mio dovere mi aspetta, sotto forma di libro di virologia. Sob. Quella materia è inquietante. Con affetto, Monica. Sorellina volenterosa. Purtroppo anche oggi devo terminare qui per ragioni di tempo, e ti aspetto alla prossima per continuare a riflettere su questa bellissima corrispondenza con Monica. 9. Da 8 trasmissioni sto parlando in merito alla corrispondenza che ho avuto con una ragazza di nome Monica. Lo faccio perché nelle sue lettere Monica mi ha raccontato i suoi dubbi, le sue difficoltà nel porre fede in Cristo, ma, grazie a Dio, anche la sua conversione. Programma fin d'ora il tuo tempo e sii presente su CRCFM per ascoltarla. La sua testimonianza ha fatto del bene a tante persone, credenti e increduli, perciò non essere egoista. Invita parenti e amici ad ascoltarla. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti all'ascolto delle riflessioni che stiamo facendo in merito alla corrispondenza tra me e una ragazza di nome Monica. Monica era alla ricerca di Dio e dopo un contatto epistolare tramite posta elettronica ci siamo incontrati, le ho presentato il messaggio di Cristo. E lei dopo alcuni giorni si è arresa a lui accettando di essere salvata senza opere mediante un solo atto di fede. In seguito ha dato una bellissima testimonianza della sua conversione, della quale ora ascoltiamo un breve passaggio. Se è possibile sentirsi abbracciati da Dio, a me è successo. Adesso, almeno, non ho più paura. Sono pronta a ripetere la mia scelta ogni giorno, ad accettare anche ciò che non comprendo e ad obbedirgli qualunque cosa mi comandi, perché so che Lui non permetterà mai che mi accada il vero male se non sarò io ad allontanarmi. Come sta scritto nella parola di Dio, quando uno pone fede in Cristo, che lo voglia o no, entra a far parte della famiglia di Dio. Così, le ho scritto in merito. Cid. 1. Monica, avere una nuova sorella per me è sempre una responsabilità. La sorella con quale abbiamo pregato per te mi ha detto di averti scritto. Ti chiedo scusa per non averti chiesto il permesso di poterla mettere in contatto con te, ma poiché sei diventata una figlia di Dio, ho agito impulsivamente. Esponi pure la tua disapprovazione, Se ho sbagliato, sentiti libera di redarguirmi. Ciao. Un tuo fratellone e sì nei tanti. Leggi Luca 18 e 29 e 39. Questa è stata la risposta di Monica. Ehi, ma quale disapprovazione e disapprovazione? Mi ha resa veramente felice poter ringraziare Elena per aver pregato per me e avere la possibilità di conoscerla. Hai fatto benissimo a darle il mio indirizzo. Non ti ho ancora detto nulla della tua testimonianza, cattiva bambina. È molto bella. Mi fa piacere sapere come sono andate le cose per te. L'ho letta con i miei amici e ti assicuro che è stato un momento splendido per noi. Per quanto riguarda il vederci, sinceramente non vedo l'ora. Ho tanta voglia di parlarti, di rivederti, soprattutto di poter parlare con te di alcune cose che riguardano il mio stato attuale. Mi sento carica come una molla ed ho bisogno di qualche consiglio per canalizzare nel modo giusto la mia energia. Seb, in particolare ci dobbiamo mettere d'accordo, con calma, per farti conoscere Luca. Che tu ci creda o no, ci tengo davvero tantissimo. Ti saluto. Fraternamente, Monica. Come ho detto, presentare l'Evangelo e condurre le anime a Cristo è solo l'inizio di un lungo lavoro. Nel momento che un'anima entra a far parte della famiglia di Dio, è necessario indirizzare il neofita a vivere un giusto rapporto con i figli di Dio, ed io spesso presento ai nuovi altri credenti con i quali poter avere comunione. Una persona sola non è in grado di dare tutto ciò che ha bisogno, anche perché un uomo ragiona da uomo. Così ho dato a Monica l'indirizzo di posta elettronica di una sorella. Inoltre, per aiutare Monica, ho espresso il desiderio di parlare l'Evangelo anche ai suoi amici, dicendole che sono responsabile di un gruppo di ragazzi con i quali ci troviamo tutte le settimane. Di conseguenza ho scritto quanto segue. Cid, 1. Aspettavo la tua risposta in giornata. Sono felice della tua corrispondenza con Elena. E una donna che ama Gesù Cristo il nostro Salvatore. E, beh, il resto te lo lascio scoprire da sola. Stalle vicino. E uno di quei diamanti che la società ha scartato ed io ho avuto l'onore di raccogliere. Lei può darti molto di più di quello che ti do io. Non rimarrai delusa. E poi, tra donne, sai com'è. Sono contento, ma che dico, contentissimo, che tu abbia bisogno di parlarmi, soprattutto perché ti rendi conto della necessità di parlare di tante cose. Secondo me il programma potrebbe essere questo. Prima ci vediamo noi due, poi vedo te con tutti i ragazzi. E, infine, Luca, aspetto sempre da te conferma e modalità. Non dimenticarti di pregare Gesù Cristo per me. I fratelloni hanno bisogno dei fratellini. Un abbraccio affettuoso. Non è per nulla facile e neppure una comune usanza che di colpo si cambi abitudini e amicizie. Questo è solo possibile con un intervento divino. Vi sono persone che quando hanno realizzato una vera conversione si sono subito abituate alla nuova vita, altre invece hanno dovuto compiere un grande atto di volontà per abbandonare le vecchie compagnie e abitudini radicate. La risposta di Monica rivela che in lei la vita di Dio operava. Quanto all'incontro con i ragazzi dovrei chiedere agli altri. Per me va bene, per loro non lo so. Comunque chiederò. Se loro non vogliono, chiederò a Luca se mi vuole accompagnare. Se lui non vuole, vedremo che fare. Mi piacerebbe conoscere i tuoi ragazzi. Con affetto, Monica. È molto importante parlare della comunione e dell'amore fraterno perché secondo la parola di Dio, una prova dell'essere diventati figli di Dio sta proprio nell'amore che si nutre verso coloro che appartengono a Dio, e non come pensano alcuni verso l'amore per il prossimo in generale. Perché questo lo può fare anche un filantropo. Mentre nessuno può amare i figli di Dio senza essere diventato un figlio di Dio lui stesso. Ecco perché mi è piaciuto leggere ciò che ha scritto Monica. Grazie Ellero. Sappi che prego sempre per te e anche per Elena, perché siete miei fratelloni. E spero che Dio vi stia sempre vicino vicino. Cosa che comunque farebbe anche se io non lo pregassi per questo. Ma male non può fare. Giusto, giusto. Non vedo l'ora di conoscere altri miei fratelli e sorelle. Ma spero di non essere una delusione per loro. Non mi ero mai resa conto prima di che persona grezza e vana sono. A volte, ovviamente. Comunque, ogni punto di partenza per lavorare su me stessa, in modo da poter essere migliore, mi è molto bene accetto, perché so che più butterò via da me quello che la vita ha aggiunto al mio modo di essere, più sinceramente e profondamente vicina potrò essere a Dio. O mi sbaglio? Mi piacerebbe sapere il tuo parere a riguardo. Un abbraccio, Monica. Dopo aver letto queste parole ho risposto così. Cid. 1. Per il tuo desiderio di migliorare nulla da dire. Alcuni chiarimenti però sono utili. Tu non migliorerai mai. Tutti noi abbiamo una natura corrotta e sbagliata, insanabilmente maligna. Questa caratteristica ce la porteremo fino alla tomba. Se desideri la santità, è perché Dio ti ha dato il suo Spirito Santo. Perciò, non sei tu che desideri la santità, ma è lo Spirito che abita in te. Tu puoi vincere le inclinazioni sbagliate solo mediante lo Spirito Santo. Il tuo compito non è quello di cercare di vincere il male, ma di essere controllata dallo Spirito Santo. Vivi per lo Spirito Santo e non compirai il male. Tu appartieni a Dio e gli sei vicina? L'unica cosa che puoi fare è allontanartene. Come ti rendi conto, il cristianesimo è esattamente il contrario della religione. Nella religione ti viene insegnato che devi fare la brava per avvicinarti a Dio, Gesù ti dice che tu gli appartieni e se pecchi ti allontani. Nella religione ti viene insegnato che devi fare delle opere per ottenere, Gesù ci ordina di stare uniti a Lui ed Egli compirà il suo volere in noi. La vita cristiana è l'opera di Dio in noi. Il nostro compito è stare uniti a Lui. Se vuoi abbronzarti non devi fare nulla, proprio nulla. Devi solo stare al sole. Il resto viene da sé. Stai alla presenza di Cristo con la lettura della parola, con la preghiera, con la comunione fraterna. Tre elementi indispensabili per piacere a Dio. Il terzo, per te, sarà il più difficile, ma devi fare di tutto perché ciò avvenga. Per oggi, la lezione è finita. Ciao. Sempre un abbraccio fraterno. Ellero. Il tema era molto imbarazzante, ma come sempre Monica ha risposto in modo egregio. Ecco, questo è il genere di lezione che mi piace ricevere. Ti ringrazio per i tuoi chiarimenti. Ti assicuro che mi sono serviti e mi serviranno molto. A volte tendo a sentirmi quasi in imbarazzo per il fatto che non posso fare nulla per Dio, tanto per ricambiare, mettiamola così. Ovviamente ho semplificato molto la questione a parole, ma sono certa che hai capito il succo. Il fatto è che sono talmente vergognosa della mia cattiveria, e non sto esagerando, mi rendo sempre più conto che è proprio la parola giusta, che desidererei strapparla da me per sempre. Ma certamente io non posso. Almeno non posso fare altro che volerlo. Mi sento come i lebbrosi che pregavano Gesù di guarirli. La cattiveria, l'egoismo, l'avidità del mio animo sono malattie più terribili di qualunque malattia del corpo. Cercherò comunque di tenere sempre a mente le parole che mi hai scritto, che sono molto sagge, in modo da non aggiungerci anche un carico a coppe di superbia, per la serie. Io posso sradicare il male che è in me, punto campa cavallo. Te lo devo dire, Ellero, sei davvero un buon fratello. Ora devo farti una domanda un tantino imbarazzante, che non avrei il coraggio di farti a voce. Quindi, punto per sapere, è una cosa sbagliata voler bene a Dio? Dico proprio volere bene, amare, come un padre all'ennesima potenza? Spero di no, ma non vorrei sbagliare, sai com'è. In ultimo, ho chiesto ai miei di insegnarmi a guidare, così mi sarà più facile stare con i miei fratelli. Non vedo l'ora di essere fra loro, sono certa che non ci vorrà molto prima che la mia timidezza faccia i bagagli in questo caso. In fondo siamo accomunati da qualcosa di enorme, no? Con tanto affetto. Monica, che meraviglia quando un'anima è illuminata dallo Spirito Santo. Monica ora sta facendo un'esperienza che lei stessa non avrebbe mai creduto. Si rende conto della sua natura malvagia. Ed io, prevenendola, le ho detto che queste inclinazioni sbagliate non le potrà mai sradicare, ma solo controllare. Il cristiano che ha compreso questo vive le sue tensioni tra il bene e il male, molto serenamente, sapendo che ogni inclinazione buona proviene da Dio, mentre ogni inclinazione cattiva proviene da noi. Monica sta scoprendo un mondo nuovo, affronta ogni verità con molta onestà e ci saranno ancora tante cose da mettere a posto, situazioni che vedremo nelle prossime trasmissioni, sempre, su CRC FM 10. Ho avuto una corrispondenza con una ragazza di nome Monica. Monica era alla ricerca di Dio e dopo una conversazione ha posto fede in Cristo. Nella sua corrispondenza ha raccontato le sue gioie, i suoi dolori, le sue prime difficoltà nell'essere divenuta cristiana. E una corrispondenza unica perché Monica è una ragazza schietta, leale, solare e quando si è così c'è e da aspettarsi di tutto. Se vuoi sentire le sue esperienze, programma fin d'ora il tuo tempo e ascoltami su CRC FM. Ma non essere egoista. Fai sentire il mio programma ad amici e parenti. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, eccoci di nuovo insieme. Stiamo meditando su ciò che ha scritto. Una ragazza di nome Monica, in merito alla sua conversione e ai suoi primi passi nella vita cristiana. Il suo ultimo problema era se trovavo giusto che lei volesse bene a Dio, e il rammarico da lei, provato per non poter fare nulla per lui. Sembrano problemi abbastanza stupidi, ma non dobbiamo mai dimenticare che quando si sperimenta la nuova nascita tutto diventa nuovo, spesso ciò che ritenevamo giusto è sbagliato, e come un piccolo fanciullo iniziamo a porre le prime domande infantili ma molto importanti perché non vi è interrogativo morale che sia superfluo. Così ho risposto alle sue domande. Cid 1. Monica cara, come non puoi fare nulla per Dio? Tu fai e puoi fare tanto. Testimonia della tua fede in casa tua. Testimonia della tua esperienza di fede ai tuoi amici. Fai conoscere la parola di Dio a chi ti è accanto. Prega perché la gente venga ad una reale conoscenza di Cristo. Gioisci della gioia di Cristo in un mondo dove tutto è negativo. Aiuta, con l'amore che Dio ha sparso nel tuo cuore, chi ha bisogno. Cerca le pietre preziose che gli altri buttano via. Ricerca la comunione con chi è figlio di Dio. Cerca Monica di tenere sempre gli occhi fissi su quello che Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Padrone, ha fatto. Non guardare a te. E Satana, l'avversario di Dio che vuole distrarti. Dio sa quello che sei, molto meglio di te. Gesù è morto non solo per darti la gioia della sua presenza e il perdono dei tuoi peccati, ma per darti una visione nuova della vita. Capisci? Visione nuova, la salvezza del nostro Signore Gesù Cristo non è solo spirituale, cioè dell'anima, ma una realtà giornaliera. Egli ci salva dall'autocommiserazione, dal compiacerci del nostro dolore e della nostra miseria. Gesù vuole che ci rallegriamo in Lui. Il fatto che tu sia in crisi perché ami Dio, ciò è dovuto ad un insegnamento errato. Dio non è una nuvoletta. Un essere etereo, vago, inconsistente, come l'olio, che più lo stringi più ti sfugge. Gesù Cristo è una persona e come tale ha ciascuna delle nostre caratteristiche umane. Gesù, il nostro Salvatore, desidera essere amato come una persona a tutti gli effetti. Il comandamento più importante è quello di amarlo con tutto il cuore, con tutta la forza, con tutta l'anima. Tu sperimenti questo. Alleluia! Che il nostro Dio ti mantenga sempre questo spirito. Grazie per l'ultima riflessione quando hai detto: in fondo siamo accomunati da qualcosa di enorme, no? È vero. Proprio per questo ti saluto e ti abbraccio fraternamente. L.R.O. Ho scritto come sempre con il cuore in mano, ma devo dirvi, cari ascoltatori, che non mi sarei mai aspettato di ricevere una lettera come quella che ora leggeremo. È vero che quando si predica l'Evangelo si semina con lacrime, ma quando si raccolgono certi frutti si è veramente incoraggiati a continuare ad andare avanti. Ecco il tenore della lettera di Monica. Ah, ok, allora se non è una cosa sbagliata, ma anzi bella, volergli proprio bene, direi che è una cosa bella, la faccio. Per il resto grazie tanto delle tue indicazioni su come dimostrare la mia gratitudine. Addio, ci tengo tanto anche perché mi sento così felice da quando gli sono più vicina, felice quanto non lo sono mai stata. Ti confido una cosa. Ho sempre pensato di essere una delle poche persone al mondo che non si sentivano a casa in nessun posto. pensavo che un giorno sarei salita su un treno o un aereo e avrei cominciato a viaggiare finché, in qualche angolo del mondo, mi sarei sentita a casa. Questo prima. Perché adesso mi sento a casa. Io sono a casa quando prego, quando leggo la sua parola, quando parlo di lui a qualcuno. In quei momenti mi sento a casa, a mio agio ben accetta, al sicuro e al caldo. Ho trovato la mia casa. E ho capito che tutti coloro che non sono vicini a Dio non ne hanno una. Più passa il tempo, più sento che andrà tutto bene, comunque andrà. Se resto nelle mani di Dio e mi concentro su di Lui, grazie di avermelo ricordato. Con affetto. Monica ha espresso un concetto e una verità che fa accapponare la pelle. Tutti noi cerchiamo un luogo che possa diventare una casa, un luogo dove ci sentiamo a nostro agio, un luogo dove trovare sicurezza. Questo sentimento così radicato nel nostro intimo rivela che pur abitando o possedendo un'abitazione o anche un intero palazzo, non ci sentiamo ancora a casa. Monica, come tanti altri meno, pensava di girare il mondo per trovare questa sicurezza e questo benessere, ma incontrando Cristo, ha scoperto di aver trovato tutto quello che cercava. Monica ha trovato l'Antico Testamento o la casa. Monica, sia se è Nuovo Testamento e a casa, quando prega, quando legge la parola di Dio, quando parla con qualcuno di Gesù. Non solo, ora, ha pure capito che tutti coloro che non sono vicini a Dio non hanno una casa. Non solo, da quando ha posto fede in Cristo sa che andrà tutto bene, comunque dovesse andare. Chi è in grado di comprendere questo miracolo? La mia risposta alla lettera di Monica non poteva che essere di congratulazioni. E così ho scritto. Cid 1. Lascia che in questa email mi congratuli con te. Mi ha edificato la tua riflessione sulla casa. Che bello. Sono felice per te. Estremamente felice. Che voglia di parlare con te, di sentire la tua voce e tutte le cose che hai da dire. Ho una sorellina veramente preziosa. Grazie per le tue riflessioni. Oggi non insegno. Ho imparato. Ciao. Un abbracciatona. Ellero. In una lettera successiva, Monica mi confida che di notte ha qualche incubo, ed io gli rispondo che il fatto che si sentisse a casa non avrebbe più dovuto avere degli incubi. Inoltre le ho confidato che anch'io, prima di conoscere Gesù Cristo, avevo un particolare incubo, cioè quello di cadere in una spirale. Ma subito dopo la mia resa a Dio non ho più avuto brutti sogni. Al che lei mi rispose: «Oh, per me gli incubi e comunque i sogni molto vividi sono uno stato naturale. Non mi preoccupano. Ci sono solo persone che nascono con questa predisposizione. Tutto qui. Niente di grave. Quanto al fatto che faccio incubi in questo periodo, anche questo è normale, dato che i primi soli portano, almeno per me, con loro sempre dei bei mal di testa e raffreddori. Punto, è ovvio che poi io non dorma bene, giusto?» Insomma, niente di più che una normale reazione fisiologica. Io mi sento meglio di quanto sia mai stata a livello personale. Comunque, grazie della tua premura, sei molto gentile. Ti voglio bene, Monica. E, vero che è una reazione fisiologica avere dei sogni, ma non sempre. Per questo mi sono interessato degli incubi di Monica, ma se non erano un problema per lei non dovevano esserlo neppure per me. Così, lasciato il problema incubi, in una mia lettera molto breve ma piena di domande, ho iniziato a interessarmi a ciò di cui si era parlato tante volte. Non capivo perché era così reticente nell'incontrare i fratelli, nonostante fosse così ansiosa di vederli. Così le ho scritto: «Come va con i tuoi amici? Con Luca? La famiglia? Rimani ferma nella fede e testimonia. Un abbraccio, Ellero». Avevo scritto così perché era giunto il momento di interessarsi degli altri, dato che fino ad ora avevamo rivolto l'attenzione solo a noi, e la lettera di Monica ancora una volta era veramente particolare. La leggeremo dopo un breve stacco. Allora, ti dico innanzitutto che negli ultimi 2 giorni ho riflettuto molto su un aspetto di me che non capivo. Perché mi sento tanto ritrosa nei confronti dell'idea di conoscere tutti gli altri miei fratelli? Dopo un'analisi abbastanza obiettiva, ho capito che c'erano 2 motivi principali. Il primo era che sono sempre stata una persona che tende a non integrarsi, la tipica ragazzina che tutti prendono in giro a scuola, eccetera. Punto. E lì mi sono risposta, sì, ma quello innanzitutto era prima, non puoi farti condizionare la vita dalle esperienze della giovinezza. E poi qui non si tratta di un semplice gruppo di persone, diamine, si tratta dei tuoi fratelli, della tua famiglia. E allora da questo versante mi sono calmata. Il secondo motivo era che avevo l'impressione di non avere nessun dono speciale da portare. Tu hai una grande capacità di comprendere le persone. Elena riesce a vedere tutto nella luce giusta. E io? Qui è stato un po' più difficile. La risposta non l'ho trovata da sola. Ho dovuto pregare molto. La risposta era abbastanza semplice da farmi sentire un po' oca per essermi fatta un problema del genere. Non spetta a me giudicare quello che posso fare o meno. Le mie capacità io non le conosco fino in fondo. E infine, ogni essere umano di Dio è utile. Che le mie monete siano 10 e quelle di un altro 100, che importa? L'importante è che, al ritorno del mio padrone, io le abbia messe a frutto. Quindi ora va veramente molto meglio e infatti stanotte ho fatto il ghiro. E va bene, avevi ragione tu, di nuovo, emoticon sorridente. Detto questo, Luca è molto felice del modo in cui sto cambiando, ma pare non importargli molto della causa scatenante, almeno per ora. Mi rispetta, ma si tiene a distanza. E, sempre un inizio, i miei amici l'hanno presa come una cosa naturale e bella e tuttora non ci fanno una piega e sono felici per me, ok. In casa non credo che abbiano compreso appieno quello che è successo, ma almeno per ora non si sono inquietati. Il mio sospetto è che io debba fare loro un discorso molto esplicito. Punto, non mi prendono mai sul serio. Punto, normale, credo. In fondo per loro sono una bambina. A presto, ti abbraccio Monica. Si era aperto un nuovo capitolo. Dopo aver risolto il suo problema spirituale, ora Monica si rende conto di dover vivere con altri che hanno la sua fede e che prima o poi avrebbe dovuto testimoniare della sua scelta ai genitori. Monica avrebbe fatto questo, come sarebbe stata la sua crescita spirituale? Lo impareremo, cari ascoltatori, nella prossima puntata. 11. Mi rimangono solo due trasmissioni per parlarvi della corrispondenza avuta con una ragazza di nome Monica. Monica era alla ricerca di Dio, ha posto fede in Cristo ed ora si poneva tante domande sulla vita cristiana. I suoi problemi sono problemi comuni a tutti i credenti e questo mi induce ad invitarti a programmare fin d'ora il tuo tempo ed ascoltami su CRCFM. Quando avrai ascoltato, mettiti in contatto con noi per esprimere il tuo parere. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che la pace di Dio regni nei vostri cuori. In questa trasmissione continuiamo a riflettere ciò che ha scritto una ragazza di nome Monica in merito alla sua conversione e al suo nuovo cammino cristiano. La parola di Dio afferma che quando uno nasce di nuovo è come un bambino, perciò la conversione non è altro che l'atto mediante il quale si ha la possibilità di diventare adulti fino alla statura perfetta di Cristo. Questo comporta tutta una serie di ammaestramenti non facili da seguire. Le lettere di Monica rivelano come lei stia combattendo quei primi elementi della vita cristiana, e ne abbiamo dimostrazione nella seguente lettera che ho ricevuto dopo circa un anno dalla nostra corrispondenza. Ellero, abbiamo un problema. Ho scoperto che mi arrabbio moltissimo, ma molto moltissimo. Quando qualcuno offende il mio Signore, lo so che è superbo ed egoista quel mio scusa. Nonostante ciò non è molto cristiano se prendo la gente a cazzotti sulle gengive. Io per ora mi sono limitata a dire liberi di avere le vostre opinioni, ma se fossi in voi rispetterei anche l'opinione altrui. Ma ciò non toglie che io provi sentimenti molto poco cristiani in quei momenti. Ho paura che prima o poi esploderò e prenderò qualcuno a bidiate in testa. Aiuto, scusa se ti tedio sempre con queste cose. Monica. La mia risposta non si è fatta attendere. Cid. 1. Cara Monica, mi è piaciuto il tuo abbiamo. Come sei stata carina. Non mi devi chiedere scusa per quello che dici e provi. sbaglia un bambino ad esprimere al suo papà i suoi sentimenti? Il mio, riferito a Gesù, è più che giustificato perché Cristo è morto per tutti, ma il suo sacrificio è valevole solo per chi lo ha accettato. Avendolo tu accettato, è diventato il tuo Signore. Ok. Direi che i tuoi sentimenti sono più che cristiani. Ne è privo solo chi è indifferente al disonore che si reca a Gesù Cristo. Tutto a posto. L'unica cosa che dovrai avere in futuro è l'equilibrio tra queste due forze, la santa ira e lasciare le persone in balia a se stesse. Se tu guardi le relazioni interpersonali di Gesù, trovi di tutto. Sì, è adirato, ha insegnato, ha risposto, è stato muto, è stato dolce, comprensivo, è stato duro e inflessibile. Ogni cosa a suo tempo. Io prego per te perché tu possa avere sapienza in ogni circostanza, ma soprattutto che tu faccia degli errori nel regno di Dio, perché significa che stai lavorando e da questi errori tu possa trarne il giusto insegnamento. Mi va bene. Prendi pure abbibbiate la gente, non dandogliela in testa, ma insegnando che cosa dice Gesù. Dopo aver scritto la lettera di Monica per un po' di tempo non ho ricevuto risposta. I miei pensieri erano tanti e i più disparati, ma alla fine è arrivata la sua risposta. Carissimo Ellero, se pensavi di esserti liberato di me, purtroppo per te sbagliavi. Ho avuto la sfortuna di prendermi una brutta tonsillite che mi ha tenuto a letto parecchio tempo, proprio dopo che mi ero appena rimessa, che rabbia. Comunque, in questo tempo che ho passato a casa non sono rimasta in ozio, ho quasi finito l'Apocalisse. Non mi fa più paura come prima, sai. Sta avvenendo qualcosa di meraviglioso in me, come un fuoco che cresce ogni minuto nel mio cuore, alimentato dalle parole del Vangelo, e mi investe tutta, ricopre tutta la mia vita, cambiando il mio modo di vedere e di fare. Non mi importa più di capire, di sapere, e nemmeno di ciò che mi accadrà. Mi importa solo di essere vicina al Signore e soprattutto di essere uno strumento della Sua volontà. Le cose mi vanno meglio di quanto siano mai andate in tutti i campi. Luca ha perfino promesso che presto mi accompagnerà da voi a Modena, una domenica, così finalmente potrò festeggiare il giorno del Signore con voi. I miei sono carinissimi, lo studio va alla grande. Ma mi sento più distaccata di quanto lo fossi su tutto ciò. Sento che non è la cosa più importante, che niente tranne Dio lo è. E sai una cosa? Sono felice di una felicità che va oltre il sorriso, che si spande in me e fuori di me. Perché quella fiamma mi riscalda dentro, come nulla mai avevo immaginato. Prega anche tu per me, affinché io possa compiere il volere del Signore provando sempre una gioia come questa. Ti voglio sempre bene. Monica, io mi chiedo chi può rimanere indifferente di fronte a questa testimonianza. È evidente da ciò che ha detto Monica che la conversione a Cristo non è un atto religioso che lascia il tempo che trova, ma è una vera e totale trasformazione dell'essere, al punto che niente è più importante di Dio. Una cosa è dirlo in forma distaccata e formalmente religiosa, altra cosa quando meno, come dice Monica, meno, una fiamma di dentro in modo inimmaginabile ti spinge ad amarlo e a servirlo. In questo mondo, milioni di persone cercano la felicità in mille modi e in mille maniere, e Monica dice dopo la sua resa a Dio: «Sono felice di una felicità che va oltre il sorriso, che si spande in me e fuori di me. Ci è qualcuno o qualcosa che offre di più?» La mia risposta ovviamente non si è fatta attendere. Cid. 1. Beh, Monica, sei riuscita a rendere ancora più felice uno come me. Non ti ho scritto perché ho sempre paura di invadere oltre il lecito. Avevo pensato ad una tua eventuale indisposizione, però se aspettavi ancora ormai ti avrei scritto io. Sono felice della tua felicità. Sono ancora più felice del tuo atteggiamento nei confronti della parola di Dio. Il fatto che non ti faccia più paura è un ennesimo segno di ciò che Dio ha operato in te. Hai lo Spirito Santo. Ascolta la sua voce. Non è facile, ma con il tempo imparerai a comprendere come egli parla in te. Troppe persone pensano che Dio sia morto, che non esista, che non operi più miracoli. Del resto, sono convinto che tu stessa non starai zitta, perché il fuoco che è in te non ti lascerà in pace. Alleluia! Continuo a pregare per te. E come? Una cosa però. Devi prepararti. Il SE Nuovo Testamento, IME Nuovo Testamento della felicità, non sarà sempre stabile. La felicità l'avrai. Perché Gesù Cristo è la nostra gioia e pace. Ma purtroppo i nostri sentimenti sono mutevoli. Instabili, peggio del tempo. Prepararsi è saggio. Con tanto affetto sincero. Ellero. Ma Monica aveva, come ogni altro figlio di Dio, dei periodi di crisi, ed io ero un poco preoccupato. E lei, senza attendere tanto, mi ha scritto. E perché mai hai paura delle mie piccole crisi? Guarda che puoi stare tranquillo, e per due motivi. Innanzitutto, e scusa se sono molto esplicita, sono dovute principalmente a fattori ormonali e non spirituali. Poiché sono una personcina ragionevole e me ne rendo perfettamente conto, non me ne faccio influenzare più di tanto. Questo è il primo motivo. Il secondo è che io, come te del resto, ho il miglior consigliere che si possa avere, qualcuno a cui affidarmi sempre, sia per i miei momenti di gioia che, ovviamente, per quelli di crisi. Quindi non ho paura, almeno finché mi tengo vicina a lui. Non ho nulla da temere, finché sono nelle sue mani. Dico bene? Sorrisone. Non vedo l'ora di conoscere i miei fratelli e le mie sorelle. Sono emozionata, ma in senso positivo. Non mi importa chi essi siano, ma solo quello che hanno nel cuore, e spero sarà così anche per loro. Il Signore ci ha fatto un dono davvero enorme regalandoci l'uno agli altri. Sento il bisogno di stare sempre vicino a chi condivide con me la fede, perché so che nel corso di una vita ci saranno tanti momenti difficili. Per me come per tutti. E tanti errori mi aspettano, ma so che se avrò qualcuno vicino a me che mi ricorderà dove si trova la felicità e in sostanza la strada di casa quando mi sentirò confusa, tutto mi sarà più facile. Un po' come hai fatto tu finora, ma su più persone. Che bello, vero? Ti ringrazio per il tuo sentimento paterno. Mi fa tanto piacere, tanto più che lo ricambio con un affetto un po' da figlioccia. Un abbraccio forte forte. Monica. A questa lettera ho così risposto. Cid. 1. Carissima, grazie per ciò che hai scritto. Mi dici di stare tranquillo, perché la tua altalena di sentimenti è un fatto ormonale. E come dire al dottore che la gastrite è un fattore fisiologico e non emotivo o psicosomatico? Va bene, ma poiché siamo corpo, anima, spirito, poiché questi tre elementi non sono scindibili, essi si influenzano a vicenda. La mia preoccupazione per te è che il tuo corpo influenzi lo spirito e lo stato dello spirito si ripercuota sul corpo, cosa del resto valevole per tutti. Ma mi fa piacere che tu sia serena. Ottima la tua fiducia in Cristo. Avanti, ciao. Ti saluto e buoni studi. Ellero. E Monica ha risposto così. Carissimo Ellero, so che ciò che dici sull'influenza reciproca di corpo e spirito è vero, ma credo di poter dire con un ragionevole margine di sicurezza che dopo qualche anno a certe cose ci si abitua. Punto in fondo finiscono per fare parte della routine della nostra vita, come la fame o la sete. E, comunque è bello avere qualcuno che si interessa a me, con affetto Monica. E infine io ho ribattuto. Cid 1. Sei una donna saggia. Che la sapienza di Cristo riposi sempre nella tua mente. Preparati psicologicamente e fisicamente per domenica per venirci a trovare. Noi ti aspettiamo. Sempre un saluto affettuoso da parte di Lidia. Ciao Ellero. Questi scambi epistolari mettono in evidenza come sia importante comunicare e scambiarci anche le nostre riflessioni in merito alla vita. E come ha detto Monica, forse la cosa più importante nel comunicare è che facendolo si esprime il proprio amore verso la persona, perché ciò che non interessa non è degno di essere preso in considerazione. Monica, come tutti, è assetata di amore, e il fatto che io non mi interessi solo del suo lato spirituale rende evidente che il mio affetto verso di lei è totale. Del resto, non poteva essere diversamente perché lei è mia figlia spirituale, il che presuppone un legame più forte di quello umano. Ma il cammino verso la casa celeste è ancora lungo. E nella prossima trasmissione termineremo queste riflessioni in merito a ciò che ha scritto Monica, per rallegrarci del fatto che finalmente si è trovata con altri figli di Dio che tanto ama. Una trasmissione da non perdere. 12. Ascoltami su CRCFM. Se non lo hai ancora fatto, sei ancora in tempo per ascoltare la mia corrispondenza con una ragazza di nome Monica. Ascolteremo la testimonianza della sua conversione e del suo smoderato desiderio di voler conoscere altri che come lei hanno posto una fede salvifica in Cristo. E dato che è l'ultima trasmissione in merito a questo argomento, ti incoraggio ad esprimere la tua opinione. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti all'ascolto dell'ultima trasmissione in merito alla corrispondenza che ho avuto con Monica, una ragazza alla ricerca di Dio. Dopo circa un mese, Monica pone fede in Cristo quale Signore della sua vita e quale unico Salvatore della sua anima. E in seguito le lettere si indirizzano ad argomenti relativi alla pratica della vita cristiana. Ormai è passato più di un anno e dopo l'estate ricevo una lettera. Ciao Ellero! Ti sono mancato un pochino? Spero che tu non abbia pensato che ti... E vi ho dimenticati, eh? No, solo che negli ultimi mesi l'università era un po' chiusa, io dovevo studiare molto e a casa non ho internet e noi non abbiamo mai pensato a scambiarci i numeri di telefono. Ahimè! Allora, breve resoconto della mia estate. L'altro mio nonno ha passato gli ultimi 2 mesi in ospedale, ma ora è a casa. Fiù, io ho letto quasi tutto l'Antico Testamento, anche se mi serviranno anni per capirlo davvero. Punta mai in fondo è a questo che serve l'allungarsi della vita media, no? E mi sento sempre più convinta e felice della mia scelta, anche perché vedo che poco a poco mi sta cambiando in un modo che mi piace davvero molto. Punto anche se a volte è doloroso, perché vedo delle cose di me che non sono belle e non avrei mai pensato che ci fossero, li prendo come dolori della... Io e Luca ci siamo lasciati, diciamo che non avevamo abbastanza in comune. Ma non sono stata troppo male, perché oramai non sono mai sola. Dimmi dove posso trovarti una delle prossime domeniche, perché oramai non ne posso più, devo, voglio, fortissimamente, rivedere te e conoscere i miei fratelli, per il trasporto in qualche modo farò. Dovessi partire il giorno prima e venire a piedi. Per favore non essere arrabbiato con me, per il silenzio. Vuoi che Gesù ti accompagni sempre, perché non che te è compagnia migliore. Monica. Sono oltremodo felice di leggere che Monica si sente sempre più convinta e felice della sua scelta. Sono soddisfatto se davanti ai riflettori della santità di Dio si vede sempre più mancante, e sono appagato se possiede un fortissimo desiderio di vedere dei fratelli. Sono poche le cose che rendono testimonianza così forte di una vera fede in Cristo come questi 3 elementi. Essere felice di aver scelto Cristo. Riconoscersi sempre più peccatore e desiderio fortissimo di stare con i figli di Dio. Ognuno di noi, alla luce del comportamento di Monica, può verificare se ha una vera fede salvifica. La mia risposta è stata fulminea. Cid, 1. Dimenticata? Impossibile. Cara Monica, ho rispettato il tuo silenzio per non intromettermi, senza permesso, nella tua vita. Sono contentissimo che tu abbia continuato a leggere la parola di Dio perché per quanto aiuto possano darti le persone, solo Dio in Gesù Cristo sa consolarci, fortificarci, aiutarti. Ero preparato al fatto che Luca ti avrebbe lasciata. Succede spesso nei casi in cui uno ha una vera esperienza spirituale con Gesù Cristo. Ora sei più libera sentimentalmente. Ed hai la possibilità di avere un compagno che abbia la tua stessa fede. Questo rientra nella volontà di Dio. Un matrimonio costituito da 2 figli di Dio non garantisce la felicità, ma almeno essi hanno la patente per poter guidare la loro vita su buoni sentieri e gioire di quello che il nostro Signore ha preparato per quelli che lo amano. Prego fin d'ora che tu possa trovare il compagno giusto per il tuo viaggio terreno, e che assieme possiate servire colui che è morto per te, cioè Gesù Cristo. Per trovarti con me